Possiamo dare inizio a questo secondo step di questo progetto che la Fondazione ha deciso di avviare con il titolo generale. Ah, pardon, mi dimentico, prima presentarsi. Sono Fausto Tortora, sono il vicepresidente di questa fondazione e mi tocca spiegare brevissimamente che a seguito e come esito, uno degli esiti del convegno che ha ricordato 40 anni dalla morte il fondatore Lelio Basso, ci è sembrato corretto e giusto rilanciare uno dei temi che a lui erano molto cari, quelli in qualche maniera legati alla libertà religiosa, ma anche alla laicità dello Stato. Per questo abbiamo promosso questo progetto che ha il titolo complessivo di Fedi e Libertà. Il primo step si è svolto circa 3 settimane fa e aveva come titolo generale le appartenenze. Oggi affrontiamo il tema verità. E successivamente affronteremo altri due argomenti, poteri e diritti, sempre a distanza. Ovviamente tutti quelli che partecipano sono benvenuti, a prescindere dal fatto che abbiano un ruolo di relatori o no, anche nelle altre occasioni in cui non sono chiamati in prima persona. Proprio per animare il dibattito e la discussione che a noi sta a cuore. Dico subito che questo progetto è promosso da un gruppo di lavoro che, oltre al sottoscritto, vede Giacomo Marramao, Gianni Iorio Giannoli e Mario Campli e ovviamente Claudio Paravati, che è conosciuto da molti di voi. Con confronti e il centro studi che lo accompagna. Una breve introduzione di oggi tocca a Gianni Iorio Giannoli, a cui cedo immediatamente la parola. Grazie. Riflettendo sulla prima giornata di lavori, abbiamo un po' modificato la formula. Innanzitutto abbiamo ridotto il numero dei relatori, che la scorsa volta mi sembra che erano 9, se non 10, e questo abbiamo visto che non lascia tempo a una discussione reale. E poi, insieme alla bozza di questioni che a noi stanno a cuore, ma rispetto alle quali ognuno di voi poi può dissentire e proporne altre, abbiamo ritenuto di introdurre il tema della giornata per mettere in luce quelle che, per favorire la discussione ovviamente, mettere in luce quelle che secondo noi sono le questioni che il tema pone, il tema della verità nella fattispecie. Fermo restando che questa nostra esperienza è un'esperienza che ci piace assimilare a un laboratorio che si differenzia da altri tavoli interculturali o interreligiosi, perché la nostra finalità esplicita o implicita è una finalità di tipo politico, esattamente come il problema del rapporto tra fedi e libertà impatta nella società contemporanea col problema della convivenza civile e col problema delle istituzioni, della libertà delle istituzioni, ed è un laboratorio di ricerca, perché malgrado ognuno di noi e anche il gruppo di lavoro ha delle tesi embrionali, del resto ogni ricerca si basa sempre sulla previsione di aspettative, però è un laboratorio di ricerca aperta, nel senso che ancora noi non sappiamo se questo laboratorio avrà degli esiti, avrà un seguito dopo l'estate, magari una conferenza internazionale, magari una serie di pubblicazioni. Noi per esempio stiamo registrando i nostri incontri, il primo l'abbiamo registrato, lo sbobiniamo, pensiamo di inviare a ognuno dei relatori la nostra sbobinatura, se avranno tempo e voglia ci piacerebbe che intervenissero su quella materia per farne appunto qualche cosa, diciamo, che rimanga. Oggi trattiamo il problema del rapporto fede e libertà sotto una particolare aspetto, che è quello della verità. Ma innanzitutto, in che senso si dà oggi un problema, o come si dà il problema del rapporto fede e libertà? Ma in un duplice senso, che è testimoniato anche, non so se appunto lo conoscete, da un rapporto che nel febbraio dello scorso anno il relatore speciale delle Nazioni Unite ha fatto sulle libertà di religiose e di convinzioni, e questo rapporto non casualmente riguardava esattamente le relazioni tra gli stati e le religioni e il loro impatto sulle libertà personali, sotto tre punti di vista. Sotto il punto di vista delle restrizioni governative che in vari stati del mondo, in molti stati del mondo, a oltre 50 anni dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e 81-18 fa 40 anni circa dalla Dichiarazione sulle libertà religiose, sulle restrizioni che gli stati, cioè a livello governativo, vengono poste all'esercizio delle libertà, anche delle libertà negative, quindi della libertà di non credere, che nel nostro caso è sancita da una sentenza della Corte Costituzionale del 1979 che assimila la convinzione, diciamo, filosofica alle convinzioni di carattere religioso. Sfida quindi dal punto di vista governativo, sfide allo spazio pubblico, diceva il relatore delle Nazioni Unite, che alcuni attori religiosi pongono alle libertà personali sul terreno dello spazio pubblico. Quindi la prima sfida è dal governo alle libertà religiose, la seconda, secondo il relatore delle Nazioni Unite, è dalla libertà religiosa alla libertà dello Stato, e dalle politiche restrittive, terzo punto, che minacciano in molti stati del mondo la libertà religiosa. E al di là dei casi eclatanti di intolleranze che coinvolgono addirittura i buddisti, gli indù, gli integralisti cattolici, i fenomeni nell'Islam e anche gli estremismi laici, basta pensare, diciamo, appunto alla repressione dei musulmani in Cina, anche in paesi avanzati come il nostro, ma come la Norvegia, la Danimarca, l'Irlanda, la Grecia, Israele, eccetera, permangono aperti problemi di rilevanza costituzionale. Io ho preso pochi giorni fa, per esempio, che al quarto articolo della Costituzione norvegese si impone al re di credere di essere luterano, diciamo, non solo che è una cosa bizzarra, no? Una cosa molto strana. Sì, appunto, c'è questa, è una bizzarria che uno non si sa come spiegare, perché riporta al 1550, diciamo, no? Riporta, neanche il re è libero di pensare come la pensa, come vuole, diciamo, deve pensare secondo quello che viene stabilito dalla Costituzione. Quindi rimangono sul piano formale, ma anche sul piano sostanziale, problemi appunto che a 30 anni, a 40 anni dalla Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondata sulla religione e sulle convenzioni personali, appunto, ancora attentano, e abbiamo episodi sanguinosissimi recenti contro le comunità islamiche, contro le comunità cattoliche, in Sri Lanka, eccetera. Non sto a enumerarli perché sono ben noti a tutti. Ma oltre al problema, questo problema generale del fondamentalismo, c'è un problema forse più serio che pone in questione lo spazio pubblico neutrale, così come lo ha concepito la tradizione illuminista, che è un problema che è venuto a emergere nello Stato democratico. Questo problema da molti viene definito come il problema della legittimazione dello Stato, che ha due facce. La faccia del rapporto tra la democrazia e i valori e la faccia della solidarietà, cioè come garanzia della libertà e della tenuta dello Stato. Sul primo terreno, il problema della democrazia e dei valori. Al di là del principio generale della democrazia, c'è il problema del diritto di resistenza, contro anche la decisione della maggioranza, quando, per esempio nel caso della tortura, non andiamo sugli aspetti, diciamo, sensibili, ma sul piano dell'aggressione, della politica militare. Quindi c'è un diritto di resistenza che riguarda tutti, contro anche le leggi dello Stato, contro le leggi della maggioranza, che fa ritenere che sia legittimo resistere quando si ritiene che siano in gioco valori che riguardano l'esistenza umana, la libertà, la discriminazione, la giustizia, eccetera. Però questo aspetto, diciamo, contraddittorio all'interno della negoziazione democratica deve prevedere dei criteri. E questo, diciamo, è un problema aperto, perché la negoziazione di questi criteri a sua volta pone un problema di tenuta stessa dello Stato democratico. Ci sono dei valori non negoziabili, o tutti i valori in principio devono essere negoziabili? Quando si scende, diciamo, dal piano dei principi generali alla loro applicazione. E il secondo aspetto, vado molto rapidamente, mi scuserete, ma do per scontate anche tutta una serie di aspetti, diciamo, su cui, siccome so che siamo di fronte a un gruppo che ha allenato nel discutere queste cose. E l'altra sfida allo Stato laico secolarizzato, dicevo, è quello della sua garanzia, della sua legittimità. E cioè il problema sta, grosso modo, lo dico così, nel fatto che la libertà consiste nell'avanzare pretese di soddisfacimento di bisogni individuali, e la soddisfazione di questi bisogni ne produce altre, inghiottendo tutti i legami di solidarietà e portando al trionfo dell'egoismo sociale. Ci sono due tipi di risposte in generale: la risposta schmittiana, la risposta che si affida alla teologia politica per rispondere a questo che viene definito come il paradosso della libertà, invoca l'autorità. A noi questa soluzione ovviamente non ci piace. Noi scommettiamo sugli interessi collettivi, sulla solidarietà negoziata, fondata su argomenti accessibili a tutti. Di nuovo, però, qui riemerge il fatto che, appunto, il terreno dello spazio pubblico, quello in cui si negoziano la libertà, deve esercitarsi, e invece, diciamo, sembra, diciamo, che non si eserciti, soprattutto in un momento di crisi della democrazia. gli elementi intermedi non ci stanno, e quindi diciamo tutta questa schermaglia che appunto dovrebbe portare in una visione ottimale al argomentare le proprie ragioni, cercare un terreno neutro, un linguaggio netto, non funziona. Vengo alla verità molto rapidamente, sulla quale abbiamo proposto una pagina di questioni. Io vorrei declinarla qui in un altro modo, sempre per porre. Spero che stasera non discuteremo, diciamo, come del resto si allude nella scaletta che vi abbiamo proposto, sulle fonti della verità. Ognuno di noi ha delle opinioni diverse, non ci interesserebbe, credo, una discussione a nessuno di noi, una discussione, diciamo, se queste fonti, se la fonte della rivelazione o la fonte, diciamo, dell'esperienza empirica debbano lottare tra di loro, diciamo. Però è sicuro una cosa, diciamo, perché, e questo va nella direzione che suggeriamo nella scaletta, che l'ontologia e l'epistemologia dei libri è un'epistemologia che parte da 2000 anni fa, nel testo più antico, nei Veda, e arriva, se vogliamo prendere il canone tibetano del pensiero buddista, o perché no, anche la confessio augustana del XV secolo, diciamo, arriva agli inizi della modernità. È una ontologia, è una epistemologia che non funziona, perché parla di sistemi geocentrici, parla di una certa modalità delle nascite, della morte, diciamo. E in generale, anche se non c'è una trattazione sistematica che io sappia in tutte le religioni del fatto che quell'ontologia e quell'epistemologia è un'epistemologia datata, cioè che non tiene, penso che però ci sia una consapevolezza, diciamo, perlomeno in tutti noi, del fatto appunto che bisogna contestualizzare il libro, i libri, e interpretarli. E in tutti i libri nei commentatori dei nostri tempi vale in generale il principio che si distingue tra il significato letterale, il significato allegorico, quello metaforico e quello mistico, occulto, la verità vera. Questa distinzione è implicita nello Zohar, ma ci sono figure analoghe, che io sappia, nella teologia islamica e in quella cristiana. E allora qui, da un certo punto di vista, siamo un po' avvantaggiati rispetto al tema delle appartenenze che abbiamo trattato la scorsa volta. Perché si dice, sul tema dell'appartenenza, i cristiani sono favoriti perché c'è il discorso della divisione degli ordini, che già sta in date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Sul piano invece teologico, per quanto attiene le verità, siamo favoriti, perché spero che siamo tutti, perché tutti quanti rinviamo la verità vera, la collochiamo in una dimensione escatologica, cioè dopo l'Apocalisse, dopo la fine dei tempi, e in tutte quasi le religioni, diciamo, c'è questo rinvio al fatto che comunque viviamo un mondo delle apparenze, la metto così. Questo ci aiuta, questo? Secondo me ci aiuta questo. Ora è vero che il cattolicesimo è un po' più forte, perché il cattolicesimo resiste di più per il fatto che è un sistema organizzato gerarchicamente, per il fatto che i sistemi di credenza sono codificati nel catechismo, nelle encicliche. Voglio citare soltanto negli ultimi 20 anni, dalla Fides et Ratio fino alla Lumen Fidei, ma poi anche la lezione di Ratisbona del 2006 e anche la dichiarazione sull'unicità e l'universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa del 2000, della Congregazione per la Dottrina della Fede, che appunto codificano, quindi rendono forse più complessa, diciamo, l'ermeneutica della verità di fede. Però tutti quanti sappiamo che anche nel cattolicesimo la discussione sulla verità di fede è feconda, se si deve anche stare a ciò che traspare di recente, sul fine vita, sulla sessualità, sul controllo delle nascite, eccetera. Vengo allora alla domanda, e mi taccio, che abbiamo proposto nel nostro schema iniziale. Quali verità, dai vari punti di vista, possono essere fatte valere non per rivendicare la propria identità, questo è un po' lo sforzo, diciamo, no? Ma invece per la coesione sociale, e quali invece, dal vostro punto di vista, costituiscono elementi di frizione o di contrasto sul comune terreno della discussione pubblica. E infine un'ultima questione è questa. Noi epistemologi diciamo appunto che una cosa sono la verità riguarda i fatti, e invece l'assiologia riguarda giudizi di valore e il dover essere, e che dall'essere non si deriva il dover essere. Quindi forse il nostro tema verità è troppo delimitato, abbiamo bisogno anche di sapere, vorremmo discutere se, anche scontando un disaccordo sulle verità, si può sperare in un accordo sui valori. Ecco, non è la stessa cosa, diciamo, dissentire sulle verità, dissentire sui valori, è qualcosa di diverso. Con questo io mi taccio. Foglio. Quello sotto. Non so se vogliamo procedere in ordine alfabetico. Sì, possiamo scegliere. L'altra volta abbiamo semplicemente seguito l'ordine alfabetico di chi era iscritto nel foglio, e se non ci sono obiezioni, ovviamente quello che ha introdotto Giannoli è una pista che possiamo seguire o calpestare o deviarne per quel che riteniamo fecondo per la discussione, che forse l'altra volta con un po' di reticenza ci siamo fermati un po' alle soglie del confronto tra di noi, e che invece vorremmo oggi più puntuale, puntuta, anche polemica, per se questo è utile alla comprensione reciproca. Se non ci sono obiezioni, io darei la parola allora a Francesca Bocca Aldacre dell'Istituto di Studi Islamici Averroè di Piacenza, che ringraziamo per la partecipazione e per aver affrontato il viaggio. Grazie, buonasera. Allora, il tema della verità da un punto di vista islamico, come già diceva Gianni, si sa, è una religione del libro, con tutti i pro e i contro che ne derivano, e quindi ho deciso di affrontarlo da un punto di vista, appunto, come suggeriva lui fortunatamente, epistemologico, cioè di provare a mostrarvi quelle che sono state le vie che sono state affrontate nella teologia islamica, sia ortodossa che non, per affrontare la questione della verità e come queste possono avere a che fare, da un punto di vista mistico, da un punto di vista proto-razionalista, con quelli che sono i problemi della nostra convivenza. Ora, se partiamo dal concetto proprio di verità nell'Islam, c'è una delle frasi più note che è «Io sono la verità», è stata pronunciata da un mistico del IX secolo, detto Al-Hallaj, che è stato molto riletto e apprezzato in chiave quasi cristologica, diciamo, nell'orientalismo occidentale. Lui disse «Io sono la verità» e questa è la frase che lui pronunciò che gli valse un'accusa di apostasia. In altre parole, una identificazione automatica tra il concetto di verità e quindi di trascendenza e quello di Dio il più trascendente. Fece, in realtà, a mio parere, penso al parere di una persona occidentale contemporanea, delle affermazioni che sono molto più critiche. Ad esempio, un giorno durante il processo aprì il suo mantello e disse «Non c'è nulla in questo mantello che non sia Dio». Eppure la frase più critica che lui abbia mai pronunciato è «Io sono la verità», Anal Haq. Ora, questo perché? Possiamo forse pensare che questo «Io sono la verità» valga un po' come la descrizione più profonda del divino. Sappiamo che nella tradizione islamica Dio ha 99 nomi e il credente è invitato a riflettere su ognuno di loro. Al-Haq ovviamente è uno di questi. Ora, ci sono varie autodescrizioni o descrizioni del divino nelle varie tradizioni che ne evidenziano alcuni aspetti. Ad esempio, tutti conosciamo la via, la verità e la vita. Nell'islamico la verità si esce dall'autodefinizione di Dio come semplice essere, cioè Dio si identifica come appunto io sono colui che è, che nella poi traduzione un po' insomma discutibile ha poi causato tanta della riflessione scolastica, per arrivare al fatto che Dio è verità. Tra l'altro nell'arabo non si usa la copula, per cui è proprio io verità, l'essere verità. Quindi la maniera in cui cercherò di parlarvene è divisa in tre parti. Il primo è darvi un'idea di cosa sia il concetto di verità. Voi sapete che nell'Islam Dio ha 99 nomi, ma sono nomi e attributi. Il nome è uno studio un attimino più linguistico di quella che è questa caratteristica di Dio. E l'attributo è il modo in cui questo poi si riflette nella creazione, nel mondo, nel cosmo, nell'aldilà. E l'ultima parte, invece, una volta capito quali sono queste caratteristiche, sarà quello di vedere nella teologia com'è che si è cercato di affrontare la questione della verità anche di fronte a delle società antiche, sì, ma interculturali, e quindi attraverso gli strumenti della mistica e della razionalità. Ora, per quanto riguarda il nome, la verità, la parola araba, haq, è molto interessante perché significa tre cose, come tante delle parole semitiche, polisemiche, significa verità, significa però anche diritto, cioè io posso avere un diritto di qualcosa, ma può anche significare realtà. E quindi in realtà con questa connotazione di Dio come colui che ha il diritto, colui che è vero e l'unico che ha una vera realtà, si inizia già a capire che il concetto di verità da un punto di vista islamico è molto spinoso, anche dal punto di vista poi dei diritti e della maniera in cui si traduce nella società. C'è una definizione del concetto di verità in arabo che rende molto l'idea, e è il fatto, questo è nell'Lisan al-Arab, che è uno dei dizionari più importanti che si usano per stabilire anche il significato delle stesse parole coraniche, quindi è molto autorevole, e viene detto che qualcosa di vero è qualcosa che è messo nel suo posto giusto, quindi è un po' una collocazione, e in questo senso ci dà un po' un'idea del fatto che possa essere qualcosa di vero, cioè una frase messa nel suo posto giusto diventa vera, ma anche un'azione messa nel suo posto giusto è adempiere un diritto. Quindi in questa maniera forse di collocazione spaziale e metafisica ci dà un'idea del termine. E infatti il concetto di peccato di sviamento in arabo batel ha proprio l'idea di uno prende una cosa e la mette nel posto sbagliato. E quindi questo è il nome, cioè nell'Islam non c'è una verità che sia avulsa dalla realtà e al tempo stesso che sia avulsa dal diritto, quindi dalla maniera in cui questa verità si manifesta. E quindi questo che cosa poi determina come implicazione dell'attributo di verità nel reale. Beh, da un certo punto di vista si potrebbe dire che se Dio è l'unico essere reale ed è l'unico essere trascendente, in realtà questa realtà non ci è mai completamente accessibile. Ci sono però state varie interpretazioni che tendono un pochino di più alla concezione platonica, cioè l'unica maniera di avvicinarsi alla realtà è un disvelamento, e ciò nonostante, se solo Dio è reale, se solo Dio è il Haq, noi non lo potremo mai raggiungere in questa vita. E poi ci sono tutti dei dibattiti se si potrà anche vedere o raggiungere nell'altra, quindi proprio qualcosa di assai oltre. C'è però un concetto che secondo me può essere riletto in maniera molto positiva e può aiutarci nel concetto di confronti tra verità nella nostra società, che è quello di predisposizione naturale. Ora, è un po' antropologico, però è rilevante. La predisposizione naturale, la fetra, nella teologia islamica è il concetto che ogni persona che viene al mondo è equipaggiata in una maniera tale che la porta, se non viene, diciamo, sviata in vari modi, a conoscere la verità. Ora, c'è una lettura molto più tesa alla giurisprudenza di questo concetto, cioè il fatto che la persona già in parte è protesa verso accettare le massime dell'Islam e i suoi comportamenti, ma c'è anche una lettura molto più interessante che può essere utile per noi a rielaborare. C'è il fatto che in noi c'è uno strumento, che è quello della razionalità, che ci porta a essere già equipaggiati a riconoscere la verità qui, essendo la verità ultima irraggiungibile in questo mondo. E secondo me questa può essere una chiave per superare quelli che sono i problemi della frizione, diciamo, tra verità dell'Islam e fattualità del mondo in cui viviamo. Ora, tenendo presente quindi questo concetto di verità come costituito da trascendenza, realtà e diritto, e al tempo stesso la fetra, cioè la predisposizione che l'uomo ha verso il bene, cerco di darvi due letture che sono state fatte dell'idea di come raggiungere la verità e cercare di capire quale può essere più utile nel nostro contesto. Allora, il primo è il fatto che se solo Dio è vero, ciò che è terreno, e questo lo diceva già Gianni nell'introduzione, è al massimo verosimile. E quindi questa è l'interpretazione chiaramente di gran parte del sufismo, ma anche molti studiosi musulmani non propensi alla mistica sono arrivati a questa conclusione, che sembra logica anche da un'analisi linguistica. E tra l'altro il sufismo elabora un suo concetto di verità, che è un po' particolare rispetto a quello dell'Islam sunnita, che è il fatto che esistano dei livelli di verità. Cioè la persona arriva a conoscere con un ilm al-yaqin, cioè una conoscenza della certezza, e poi sopra la conoscenza della certezza c'è quello che è chiamato l'occhio della certezza. Quindi una persona conosce implicitamente, ma ancor più vede con i suoi propri sensi, e poi ancor più c'è questo livello che è la verità, è il haq della certezza. Cioè, in altre parole, c'è tutta questa scala in cui certezza, percezione e verità sembrano quasi essere dei sensi che guidano la persona nella sua conoscenza del mondo. E chiaramente tutto questo, diciamo, gioco di non vere realtà e graduali disvelamenti portano un pochino a quel platonismo che rende anche difficile lavorare con un concetto di verità qui, come operazionalizzare queste idee. Ed è però, diciamo, una prima apertura al fallibilismo che molto spesso dal punto di vista islamico sembra mancare. Quindi è una via meno battuta, può essere valida, possiamo poi discuterne se lo trovate interessante. E, uno dei primi orientalisti europei, Ignaz Goldziher, che insomma non particolarmente pieno di simpatia verso le parti più ortodosse dell'Islam, scriveva però un'osservazione molto profonda, che è: in fondo questo sentiero di progressivo sviluppo, e sta parlando di questi passi della conoscenza della certezza, porta a riconoscere che le differenze confessionali sono indifferenti in rapporto alla santa verità alla quale bisogna tendere. Infatti in realtà è stato il sufismo e la parte più mistica dell'Islam, anche se appunto platonica, a non considerare le differenze interconfessionali come un ostacolo, ma come stadi, neanche stadi, modalità diverse di avvicinamento a quella che è la verità ultima, che tanto è inconoscibile. La strada opposta, ma anch'essa presente nell'Islam, diciamo, dai primissimi secoli, è quella di pensare del fatto che il vero non sia misterioso. Si dice spesso che l'Islam è una religione senza mistero, questo non lo condividono tutti, però c'è una grande parte di teologi che ha spesso sostenuto la completa razionalità dell'Islam, anche a volte da un punto di vista apologetico, forzando il testo, però è una corrente. E quindi non esiste una differenza tra credere per fede e credere per ragione, ma queste sono completamente una e la stessa cosa. Una delle scuole teologiche più importanti del mondo musulmano, quella maturidita, che oggi è una minoranza ma una lunga storia e comunque fa parte dell'ortodossia sunnita, sosteneva che l'uomo per conoscere il mondo abbia 6 sensi, i 5 e la ragione. E quindi che possa esserci, e appunto ricollegandola al concetto di predisposizione dell'uomo, cioè come l'uomo è predisposto chiaramente da Dio con gli occhi e le orecchie, così è predisposto con la ragione, e come questi solitamente non ingannano, così anche la ragione solitamente non inganna, chiaramente per lasciare un po' di spazio per tutta la questione dogmatica. E volevo concludere leggendovi un piccolo brano di un teologo dell'VIII secolo, Al-Jahiz, che quindi non si può tacciare di essere un occidentalista sfegatato, che parla della ragione e del suo legame con la verità nella teologia islamica. Lui scrive: «Quanto è magnifica la ragione come guida e compagna nella buona e cattiva sorte, come giudice discerne il falso dal vero». Ora, queste sono strade, sono tante delle varie strade che l'Islam ha cercato per affrontare il punto della verità. Come già si era accennato, chiaramente esiste una varietà dottrinale immensa, non essendoci una gerarchia ben costituita, tranne che nel mondo sciita. E quindi sono tutte strade in gran parte non battute, specialmente queste due del razionalismo e della mistica e del fallibilismo, ma mi sembrano quelle più rilevanti per il nostro dibattito. Grazie. Grazie. Mi sembra particolarmente interessante per lo sviluppo del nostro dibattito queste affermazioni finali sulle differenze confessionali e la trascurabilità delle differenze confessionali rispetto al tema del raggiungimento della verità. È chiaro che qui ci tocca quindi un lavoro in qualche maniera critico per lavorare su questa acquisizione, che non è proprio così spontanea e naturale nella percezione, almeno di questa parte di mondo, diciamo così. Io darei la parola ora a Gianfranco David Di Segni del Collegio Rabbinico Italiano per proseguire questa riflessione. Grazie agli organizzatori per avermi invitato, in particolare grazie al dottor Giannoni con cui abbiamo scambiato qualche mail per mettere a punto l'intervento. Allora, visto che già è stato nominato il legame fra le religioni monoteistiche almeno e il libro, e gli ebrei pure sono il popolo del libro, da libri parto, porterò 4 brevi testi. Il primo è tratto dalla preghiera quotidiana, la mattina e la sera, le benedizioni subito dopo lo Shema Israele, l'ascolto Israele, che è l'affermazione di fede, il Signore Dio nostro, il Signore uno. E subito dopo questo brano, che si dice mattina e sera, che poi è il brano che Primo Levi ha messo in esergo a Se questo nuovo, la benedizione, anzi il brano dello Shema finisce con le parole io sono il Signore Dio vostro, verità. La parola verità non è contenuta nella Torah, da cui la Torah è la prima parte della Bibbia, da cui il brano è tratto, però nel libro di Geremia c'è l'espressione Dio vostro verità, e allora per sottolineare l'aspetto della verità è stato inclusa la parola verità anche nella preghiera quotidiana. Subito dopo il brano della Torah c'è una benedizione, che nella traduzione del rabbino David Prado, è stato rabbino capo a Roma a metà del Novecento, dice: sì, questa è una verità reale, certa, sicura, retta, fedele, amata, cara, preziosa, soave, ammirabile, forte, potente, gradita, buona e bella. Sì, questa è una verità eterna per noi. È vero che il Dio dell'universo è il nostro re, eccetera, eccetera. Parole simili anche nella benedizione che segue la lettura serale. Detto questo, potremmo chiudere il discorso, andare via, punto, discussione finita. Però, l'ebraismo, che si basa sul Talmud, mette tutto in discussione. Il Talmud è la discussione per eccellenza fra diversi maestri, fra diverse scuole. E discutono fra di loro e tutto viene messo in discussione. Allora, adesso vi leggo un paio di brani dal Talmud. Il primo è molto famoso, è la storia del forno di Achnai, su cui c'è anche un libro in italiano a cura di Stefano Levi della Torre e collaboratori, edito dalla Giuntina. È famoso fra gli addetti ai lavori, ma anche non fra gli addetti ai lavori. La discussione parte fra due maestri, Rabbi Eliezer e Rabbi Yehoshua, e verte su problemi rituali, problemi molto concreti, ma come spesso succede nel Talmud, dai problemi concreti poi si passa ai massimi sistemi. Lo sintetizzo: era in discussione sulla purità di un certo forno, da qui il titolo forno di Achnai. Achnai era il nome della persona, ci sono anche altre spiegazioni. Rabbi Eliezer portò tutte le risposte ai maestri che volevano discutere la sua decisione. Rabbi Eliezer voleva considerare puro questo forno rituale, mentre invece gli altri maestri lo consideravano impuro, e Rabbi Eliezer portò diverse obiezioni, ma nessuna fu accettata. E allora Rabbi Eliezer disse: se la legge, se la regola è come dico io, questo carrubo lo dimostri. E quel carrubo si sradicò dal terreno, si spostò di 100 passi, secondo alcuni addirittura 400 passi. Ma gli altri maestri, capeggiati da Rabbi Yehoshua, gli dissero: non, in una discussione non si portano prove da un carrubo. Che c'entra il carrubo? E allora Rabbi Eliezer disse: proviamo un altro modo. Se la regola è come la penso io, che questo corso d'acqua lo dimostri. E l'acqua iniziò ad andare al contrario. I maestri risposero: non si porta prova da un corso d'acqua. Rabbi Eliezer continuò: se la regola è come dico io, le mura di questa casa di studio lo dimostrino. E le mura della casa di studio, tipo questa qua, iniziarono a reclinare. E allora a quel punto Rabbi Yehoshua, anche perché diventava un po' rischioso, allora Rabbi Yehoshua, fino adesso era stato zitto, ha lasciato parlare gli altri maestri, si alza in piedi e dice, si rivolge alle mura e dice: se i maestri discutono sulla legge fra di loro, voi che c'entrate? E le mura non caddero per rispetto a Rabbi Yehoshua, però neanche si rialzarono del tutto per rispetto a Rabbi Eliezer. Qua già ci stiamo avvicinando poi a dove vogliamo andare a parare. E infatti aggiunge il Talmud, ancora sono lì pendenti queste mura. A questo punto, ultima opzione che rimane a Rabbi Eliezer, dice: se la regola è come dico io, venga dimostrato dal cielo. E uscì una voce celeste, anzi letteralmente il testo dice una figlia di voce, una eco, e disse: cosa volete da Rabbi Eliezer? Che la regola è sempre come dice lui in tutte le occasioni. Lui è il portatore della verità, il depositario della verità. Lo sto dicendo un parole mio, che il testo dice soltanto la regola è come dice Rabbi Eliezer in ogni occasione. Ma Rabbi Yehoshua si alza di nuovo in piedi e cita dalla stessa Torah, dal libro del Deuteronomio, dove è scritto a un certo punto lo bashamaimi, non è in cielo. Mosè disse agli ebrei, per convincerli che non è così complicato osservare le regole del Torah, dice non è in cielo, non sta al di là del mare, e per cui è alla vostra portata. E Rabbi Yeshua prende questo estratto del versetto non è in cielo per dire, che vuol dire che non è in cielo? Vuol dire che è già stata data dal cielo sul monte Sinai e noi non ascoltiamo più le voci celesti. Per cui il fatto che la voce celeste dica dall'alto che la regola è come Rabbi Eliezer non è affatto rilevante per la nostra discussione. E noi seguiamo la Torah come ci è stata consegnata, dice Rabbi Yeshua, dal monte Sinai, e lì nella Torah c'è scritto che si segue la norma della maggioranza. Allora, visto che qui la maggioranza dei maestri è contraria alla tua idea, Rabbi Eliezer, devi accettare l'opinione della maggioranza. Tra l'altro Rabbi Eliezer non accettò l'opinione della maggioranza, per cui fu un contrasto drammatico fra lui e i maestri, ma questo magari ve lo racconterò un'altra volta, il seguito della storia. E qui invece in questa pagina, il seguito della storia, si racconta che Rabbi Natan incontrò il profeta Elia, che secondo la tradizione non è mai morto, per cui ogni tanto vaga per le strade del mondo e incontra le persone. E allora Rabbi Natan incontrò il profeta Elia e gli disse: cosa fece il santo benedetto, il Signore Dio, in quel momento quando assistette a questa discussione fra Rabbi Eliezer e Rabbi Yeshua? E allora risponde il profeta Elia, sorrise e disse: i miei figli mi hanno battuto, mi hanno sconfitto, i miei figli mi hanno sconfitto, perché mi hanno dimostrato dalla stessa Torah che io ho dato che si segue la regola della maggioranza. Allora qui vediamo il primo punto, che c'è una verità celeste, perché dal cielo si dice che la legge va sempre secondo l'opinione di Rabbi Eliezer, e però poi dopo c'è una verità terrena, pragmatica, in cui non possiamo fare altro che seguire l'opinione della maggioranza, perché altrimenti non ci sarebbe più possibilità di convivenza. Vediamo il secondo brano che si riallaccia a questo, perché anche qui si parla della voce celeste, perché c'è un caso in cui la voce celeste se ne tende conto, e qui si parla della discussione fra le due grandi scuole del primo periodo del Talmud, ossia il periodo della Mishnah. Siamo nei primi due secoli del primo millennio, quindi 100-150 anni dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme ad opera dei Romani, che fu nel 70. E le due grandi scuole erano la scuola di Shammai e la scuola di Hillel. Sui capi scuola Shammai e Hillel ci sono molti racconti interessanti. Le due scuole continuarono, così come c'era una divergenza di opinioni fra Shammai e Hillel, anche le due scuole mantennero una divergenza di opinioni e discussioni su tutto, su tutti gli argomenti rituali e legali, ma non soltanto. Se c'è tempo vi dirò un altro argomento subito dopo il passo che vi leggo adesso. E disse Rabbi Abba a nome di Shemuel, è tipico del Talmud citare sempre quelli che hanno detto il primo insegnamento, non soltanto l'ultimo anello della catena, ma anche quelli precedenti, e dice che per 3 anni furono in discussione, divergevano le scuole di Shammai e la scuola di Hillel, e ogni scuola diceva la regola, la legge è come diciamo noi, e gli altri dicevano no, la legge è come diciamo noi. Uscì una voce celeste e disse: queste e quelle sono parole del Dio vivente. Cioè, c'hanno ragione tutte e due. Qui andiamo contro tutta la filosofia aristotelica, che presuppone che è il principio di non contraddizione interna. E queste sono valide tutte e due, e viene asserito dal cielo stesso. Qui è già diverso dalla discussione precedente. Lì si diceva ha ragione Rabbi Eliezer e non come voi altri, però gli altri, Rabbi Yeshua dice: noi siamo la maggioranza, facciamo quello che ci pare, in cielo decidete quello che volete, qui sulla terra decidiamo noi. Qui invece è il cielo che attesta che hanno ragione entrambi, che entrambi sono parole del Dio vivente, e però conclude, ma la regola segue la scuola di Hillel, per cui si dà ragione a tutte e due, però poi alla fine anche in cielo sono costretti a dare ragione a due, perché altrimenti, se non si decide com'è la regola, diventa l'anarchia completa dal punto di vista sociale, religioso, teologico e quant'altro. E poi si dice, ma visto che entrambe le scuole avevano ragione, per quale motivo la scuola di Hillel ha la preferenza, la precedenza? E allora si risponde, perché erano più miti, erano più tolleranti, e perché insegnavano non soltanto la propria opinione, ma anche quella della scuola di Shammai. Shammai era un po' più esclusivista. E poi dopo, va bene, continua. Se c'è tempo, poi vi dico una discussione che è raccontata qua. Passiamo adesso al quarto brano, quarto e ultimo brano che cito, salvo l'appendice, che se c'è tempo. Allora, qui facciamo qualche secolo in avanti e andiamo al Rambam, il Maimonide, Rabbi Moshe Ben Maimon, che è il più grande rabbino, codificatore, filosofo vissuto nel Medioevo, nato nel 1135 o 38 a seconda delle diverse opinioni, nato a Cordoba in Spagna, poi dopo è andato in Marocco, Spagna a quell'epoca era sotto dominio musulmano, è andato in Marocco, poi ha provato ad andare in terra di Israele, che a quell'epoca era molto povera, molto disagiata, lo status di questo grande studioso non permetteva di vivere in terra di Israele, e quindi si trasferì in Egitto a Fostat, che era la vecchia Cairo, e lì divenne capo della comunità, medico del Saladino, e scrisse tutte le sue grandi opere. Il codice legale, che è di base a tutti i codici legali successivi al primo codice legale sistematico, lo scrisse in ebraico, mentre invece le opere filosofiche, le opere mediche, le scrisse in arabo, che era la lingua franca dell'epoca e anche quella che più si prestava ad affrontare argomenti filosofici. Allora, nell'introduzione al trattato dei Pirkei Avot, i capitoli dei padri, che è uno dei trattati della Mishnah, la Mishnah è una parte del Talmud, ed è un trattato di etica. Nell'introduzione a questo trattato, sono chiamati gli otto capitoli, perché è formato di otto capitoli, ed è anche stato tradotto in italiano dal rabbino Giuseppe Laras, di benedetta memoria, è mancato poco tempo fa, è stato rabbino capo a Milano, è una figura molto importante nel ibrismo italiano, è pubblicata la giuntina La dottrina etica, gli otto capitoli. Allora, nell'introduzione il Maimonide dice che quando si è per accingersi a scrivere quest'opera ha usufruito di tante fonti e molte delle cose che lui dice non le ha inventate lui, ma le ha recepite da studiosi che l'hanno preceduto. E anche se è vero che ho raccolto tanti insegnamenti da diversi saggi, da diverse opere, dal Talmud, dai commenti al Talmud, però non l'ho citati tutti per non appesantire l'opera. E ho anche attinto alle parole dei filosofi, sia antichi che nuovi, che contemporanei, e dalle opere di molte persone, e poi concludo con queste parole. Le dico in ebraico, anche se l'ebraico qui è un ebraico tradotto da un traduttore contemporaneo al Mamoni, Ibn Tibbon, dice: Shma emet mimi shamara, ascolta la verità da chiunque la dica. Questa è la frase chiave che forse uno dovrebbe mettersi come manifesto in tutte le porte. E il Maimonide lo dice perché è ben consapevole che citare dai filosofi ebrei o non ebrei, da religiosi o da laici, mi sto allargando ovviamente, forse il termine laico è un po' anacronistico all'epoca del Maimonide, ma insomma citare da fonti diverse può dar fastidio a qualcuno, e in effetti se oggi il Maimonide è l'autorità indiscussa e nelle yeshivot, nelle accademie talmudiche si passa metà del tempo a studiare il Talmud e l'altra metà a studiare quello che il Maimonide dice sul Talmud, e ugualmente per le discussioni legali. Però all'inizio non fu così, le opere di Maimonide non furono criticate proprio perché lui non citava, diceva, io ho raccolto da tante fonti, però non vi dico quali sono, dal punto di vista scientifico, insomma, non va tanto bene. E diceva anche, non c'è più bisogno di studiare il Talmud e le altre opere, bastano i miei libri. E poi, perché chiaramente nel Morene Mochi, nella Guida dei Perplessi, lì fa molto uso della filosofia aristotelica. Insomma, tutte queste varie cose provocarono che i libri del Maimonide non furono recepiti subito, addirittura ci furono forti polemiche e anche furono bruciati al rogo in certe comunità della Provenza. Però poi dopo, come dice un altro brano del Talmud che vi cita a memoria, le menzogne sono instabili, noi in italiano diremmo hanno le gambe corte, ma la verità è stabile e per cui alla fine prevale e per cui poi alla fine ha avuto ragione il Maimonide per la vastità della sua cultura e ha prevalso su tutti gli altri. Se ho altri due minuti vi dico quella discussione, ok, perché penso che sia importante. Allora, vi ho detto che la scuola di Shammai, la scuola di Hillel discutono su tutto, per lo più su argomenti rituali, tecnici. Anche se spesso poi gli argomenti rituali e tecnici portano a discussioni di più vasta portata. La discussione che è raccontata in questo trattato, dunque, i passi del Talmud vi ho citato, il primo era nel trattato di Bava Metziah, la porta di mezzo, e questa sulla scuola di Shammai e Hillel invece al trattato di Eruvin. Qui si dice: hanno insegnato i nostri maestri, per 2 anni e mezzo discussero la scuola di Shammai e la scuola di Hillel. Questi dicevano: sarebbe stato meglio per l'uomo se non fosse stato creato, piuttosto che essere stato creato. Chi ce l'ha fatto fare questa qua? Non era meglio se il Signore Dio non ci creava? Questa è un'opinione. L'altra opinione invece dice: no, è stato bene che l'uomo sia stato creato, è meglio che l'uomo sia stato creato piuttosto che non lo fosse stato. E in un'accademia, quando c'è una discussione, anche se questa è una discussione, diciamo, teologica, teorica, però l'abitudine è che quando c'è una discussione in un'accademia, se si deve arrivare poi alla norma pratica, ci si conta, in Parlamento, che sta qua accanto, ci si conta, e magari un voto fa la differenza. E allora si contarono e conclusero, secondo voi che conclusero? È meglio essere stati creati o meglio non essere stati creati? Nonna? Sì? Sì. E invece lì la conclusione fu: sarebbe stato meglio se non fossimo stati creati. Forse erano un po' più pessimisti di noi oggi, si fa per dire. Però il Talmud conclude, questo. Ma ora che siamo stati creati, cerchiamo di comportarci bene, guardiamo nella nostra coscienza e nelle nostre azioni e cerchiamo di seguire la retta via. Grazie. Beh, non c'è dubbio che siamo stati tutti un po' affascinati da questa evocazione del Talmud e da tutti questi insegnamenti. Alla fine ne tiriamo fuori un discorso su che cercare la verità da chiunque la dica, e soprattutto questa verità che si cerca a maggioranza, che quindi non c'è un deputato alla verità, nemmeno fra i grandi maestri. Io ricordo però che a Cordova, nella statua di Maimonide, oggi ci sono sempre molti fiori, sì, sotto. Allora, tocca a Pavel Gajewski. Prego. Grazie. Grazie. Ecco, io prima di tutto vorrei ringraziare per la scheda che è stata distribuita, la scheda di presentazione, perché questo documento molto denso mi permette subito di collocarmi rispetto all'argomento della nostra serata. E come giusto che sia, inizio dal titolo, proprio dalle prime due parole. La parola fede declinata al plurale, fedi e verità. Non ci sono i due articoli determinativi, ma per me la parola verità anche qui è declinata naturalmente al plurale. La fede. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese, quando ha cominciato a lavorare seriamente sulle questioni del dialogo interreligioso, coniò proprio questa espressione, fedi viventi. Per quale motivo? Perché la parola religione, che noi usiamo con molta facilità, considerando la religione quasi sinonimo del divino, è una realizzazione umana. E questa nella teologia, ce l'ha ricordato Karl Barth, qui in Italia Vittorio Subilia è stato un sostenitore convinto di questa visione del mondo. Ripeto, ciò che conta sono le fedi, la fede, ma la religione rimane sempre una realizzazione umana e in quanto tale provvisoria, precaria, fallibile. Questa è la prima premessa, quindi fedi, fedi viventi, la fede, la mia fede, la tua fede, ma poi la fede, che cosa si pensa subito? In. La fede in qualcosa, la fede in qualcuno. Non vorrei affermare, non voglio affermare che questo modo di nuovo di declinare la parola fede sia sbagliato, però a me personalmente come teologo e come pastore mi interessa la fede di una persona, la fede dell'altra, la fede dell'altro. Perché uno dei vantaggi, penso, del ministero pastorale nelle chiese valdesi e metodiste è l'ascolto, cioè i pastori protestanti trascorrono molto tempo, ma io dico sempre troppo poco tempo, ad ascoltare le persone. Poi la predica è forse, sembra la cosa centrale, ma infine, alla fine poi nella scaletta delle priorità si colloca in basso. Perché la fede di? E qui vorrei ricordare una frase che è molto conosciuta nell'ambito del dialogo ebraico-cristiano, ma anche nell'ambito del dialogo interreligioso in generale. Io la attribuisco a Shalom ben Corin, uno dei più illustri personaggi del Novecento dell'ebraismo riformato, che ho avuto anche l'onore di conoscere di persona, però le radici di questa frase si fondano nel pensiero di Martin Buber. La fede di Gesù ci unisce e la fede in Gesù inevitabilmente ci divide. Allora io penso che parlando delle fedi e della fede, se noi riuscissimo a collocare questa parola al livello della fede di, la fede di qualcuno, ecco, questo è il primo passo non verso la separazione a causa della fede, ma la fede come fattore di unificazione. E inevitabilmente poi c'è il verbo credere. E qui di nuovo dal punto di vista semantico cosa scriviamo, cosa diciamo? Credere in qualcosa, credere in qualcuno, esattamente come la fede in qualcosa o in qualcuno. Io di nuovo vorrei modificare questa grammatica che, ripeto, nasce più dall'ascolto e non tanto dalla proclamazione. Io direi credere con qualcuno, perché per me questa dimensione del soggetto, dei due soggetti, o come direbbe Martin Buber, come ci ha insegnato, penso a tutte e tutti noi che siamo presenti in questa sala, credere con qualcuno vuol dire che un io entra in relazione con un tu. Tu e io e tu, secondo me, è la base di questo discorso, perché in questa proprio prospettiva buberiana, dialogica, come possiamo definire la fede? I manuali di teologia, cosiddetta, una volta si chiamava fondamentale, o comunque manuali di teologie sistematiche, hanno proprio un intero trattato dedicato alla fede, ma io, senza voler banalizzare il discorso, io identifico la fede con un solo sinonimo, con una sola parola: la fede è relazione. E questo insegnamento non è frutto delle mie meditazioni notturne, ma semplicemente frutto della lettura del Vangelo secondo Giovanni, perché in Giovanni si ripete, a mo' di parola cifrata, quasi una parola d'ordine, se volessimo definirla in questo modo, questo ego e i mi, io sono. Quel io sono, come è stato già detto, naturalmente allude molto chiaramente al nome dell'Eterno, questo è chiaro. Però appunto quel io sono, io in questo caso pongo l'accento sul io, ha inevitabilmente bisogno del tu. E allora proprio su questi presupposti fondo la mia definizione, ripeto, anch'essa molto provvisoria, molto precaria, molto umana, la fede come relazione. Perché in effetti nella prospettiva della teologia, voglio definirla evangelica in generale, cioè la teologia che cerco anche di trasmettere e di insegnare, la fede non è mai identificata con un sistema di dottrine, di codici dottrinali, di canoni, dogmi e cose di questo genere. Cioè, si parla naturalmente della fede che è creduta, quindi dei contenuti della fede cristiana, però i contenuti della fede cristiana sono sicuramente a livello molto più basso, sono secondari rispetto all'atto di fede. E l'atto di fede è un atto relazionale. Il più grande relativista cristiano, ecco, chi poteva essere il più grande relativista cristiano? Paolo di Tarso, alla fine del suo stupendo capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, dove si parla di agape, relativizza la fede. Dice, ecco, qui in questa dimensione ci sono queste tre, non c'è la parola cose nelle nostre traduzioni italiane, queste tre cose durano, la fede, la speranza e l'agape. Però dice subito che quello che rimarrà, quello che rimane già adesso, è agape. Quindi sia la fede, sia la speranza, che sarebbe un altro discorso, ma io in maniera provvisoria e definisco la speranza come l'agire che scaturisce dalla fede. Per me la speranza non è qualcosa di astratto, ma qualcosa di assolutamente concreto, l'agire che scaturisce dalla fede intesa come relazione. Di tutto questo non rimarrà niente, perché ciò che dura e durerà è la relazione agape. E allora vorrei proiettare questo concetto di fede intesa come relazione sulla verità intesa come relazione. E credo che già ai primi anni delle scuole superiori abbiamo imparato tutte e tutti che questa relazione viene spesso definita come la relazione della mente con la realtà che questa mente analizza, la realtà che circonda, parafrasando un po' Martin Buber, l'io pensante. Ma è una definizione sicuramente molto valida, una definizione sicuramente utile, ma a me questa definizione non basta. È sicuramente basilare per tanti discorsi che faremo forse anche stasera, però a mio avviso non è sufficiente, perché la relazione non è necessariamente con la realtà, che qualche volta ci sfugge, ma non perché inafferrabile, perché in qualche modo ci sovrasta. La realtà che noi crediamo di conoscere così bene, soprattutto in una certa visione molto, direi così, positivista, post-positivista, il culto, addirittura l'idolatria della scienza e della ragione ci può portare ad una falsa presunzione che conosciamo perfettamente la realtà. No, è possibile conoscerla, ma io sostengo la tesi che in questa prospettiva la realtà stessa, e quindi di conseguenza la verità, ci sovrasta. Però con chi posso entrare in relazione? E la risposta è già nella prima parte della mia riflessione, in cui parlavo della fede. Io posso entrare in relazione, e per me la verità, o forse si dovrebbe dire la ricerca della verità, il processo conoscitivo, si gioca nella relazione con il tu, con l'altro. Qui vorrei ricordare un bellissimo, anche se brevissimo, saggio di Richard Kapuscinski, che è già difficile da pronunciare, un grande giornalista intellettuale polacco, che Feltrinelli ha tradotto con il titolo molto bello L'altro, con la A ovviamente maiuscola. Infatti la relazione con l'altro, che sia con la A maiuscola o la A minuscola, è questa dimensione in cui io cerco la verità. Ma come la esprimo? Quale strumento uso? E qui c'è un'altra categoria che vorrei introdurre, narrazione, perché la narrazione scaturisce dall'esperienza. La narrazione è individuale, personale, naturalmente nella mia ottica di credere con diventa poi comunitaria, quando si forma una comunione o comunità delle narrazioni. Però la narrazione deve rimanere qualcosa di assolutamente personale, e quindi la dimensione dialogica è sempre quella del confronto tra le due narrazioni. Però naturalmente la narrazione presuppone non solo la sua espressione verbale, ma presuppone l'ascolto. La regola è molto semplice, la usiamo, io sono anche un catechista, la usiamo con i nostri bambini nelle scuole domenicali. Se parliamo tutti insieme, anche se le nostre narrazioni sono stupende, bellissime, profonde, ma nessuno ascolta, cosa diventa? Diventa un caos. Quindi questa relazione dialogica presuppone la capacità, da un lato, di articolare la propria narrazione, qualche volta con mezzi narrativi molto semplici, ma presuppone naturalmente anche l'ascolto. E in questa dinamica il confronto tra narrazioni non è un fattore di divisione. Il confronto tra dogmi, dottrine codificate, inevitabilmente porta alla divisione o almeno ad una forma di separazione. Se siamo capaci di lavorare sulle narrazioni, costruire un vero confronto tra narrazioni, io sono convinto che è un primo passo, un passo fondamentale, verso l'unificazione del genere umano. Ripeto, il confronto tra narrazioni. Perché la narrazione mi permette di conoscere l'altro, non la verità in sé, astratta, assoluta, ma mi permette di conoscere l'altro. E qui chiedo scusa di violare il territorio del Primo Testamento, del libro Bereshit, ma all'inizio del capitolo 4 c'è questa frase che talvolta leggiamo molto velocemente: Adamo conobbe Eva. E penso tutti i commentatori vedono in questo atto di conoscere il rapporto sessuale, giustamente. Però intanto la parola ebraica afferma molto chiaramente la dimensione conoscitiva, cioè oserei dire nei termini filosofici quasi epistemologica. Ed ecco, ritorniamo al punto di partenza, ritorniamo anche al nostro grande relativista cristiano Paolo di Tarso, perché se alla fine rimane agape, è quell'atto a cui allude Bereshit, è un atto di amore pieno, completo, nel senso proprio della fusione dei due corpi affinché formino un unico essere. Questi per me sono i paradigmi fondamentali per la costruzione di qualunque dialogo. E finisco questa mia relazione con alcune, posso definirle, note di attualità. Ho apprezzato molto l'introduzione a questo nostro seminario e vorrei giusto concludere con una mia idea personale su che cosa deve fare lo Stato, perché in fondo, se capisco bene, il progetto, l'intero progetto, sì, è orientato su questo, ma giusto un input che naturalmente deve essere discusso, può essere, anzi deve essere messo in discussione. Io sono un laico molto convinto e credo che in questo campo, dove io ho anche veramente l'onore e il piacere di lavorare del dialogo interreligioso, lo Stato può e deve fare una sola cosa: creare condizioni volte a favorire il dialogo tra diverse comunità di fede. Se questo è assicurato attraverso i dispositivi legali, se questo è assicurato attraverso l'erogazione dei fondi, perché questo ho imparato da mio padre, le leggi anche più belle, se non hanno la copertura nel bilancio, servono a poco, devono avere anche la copertura nel bilancio. Quindi leggi, risorse finanziarie e poi naturalmente luoghi fisici, anche come questo, che però è una fondazione privata, se non sbaglio, che in qualche modo si autofinanzia. A me piacerebbe, tornando un attimo indietro, che i luoghi di dialogo interreligioso, i luoghi di scambi tra narrazioni, fossero anche sostenute dalle tasse che tutti paghiamo. E con questo accento, non so se troppo politico, finisco questo mio intervento. Grazie. Grazie. Grazie a Pavel Gajewski. E devo dire che l'accenno che lui ha fatto all'esigenza della relazione, della ricerca, eccetera, è un po' la traccia che ci ha guidato, ispiratrice di questo lavoro. Anche se, a differenza di altri luoghi, io non so se definire la Fondazione Basso un luogo privato o un luogo pubblico, è uno spazio comunque di libertà che duramente il fondatore prima e poi noi a 40 anni di distanza cerchiamo di mantenere vivo, con certamente con l'aiuto della famiglia e degli eredi, e anche con un contributo dello Stato che ci viene perché teniamo aperta una biblioteca 5 giorni alla settimana e che è inserita nel servizio pubblico bibliotecario nazionale. Quindi non so come che. Certo, a me fa un certo effetto sentir definire Paolo il primo relativista cristiano, perché noi pensiamo che sulla pista di, per esempio, di teologi come Barbaglio, eccetera, noi siamo stati abituati ormai a considerare Gesù un ebreo di Galilea. E chi ha in qualche maniera costruito le impalcature che hanno poi dato luogo a tante degenerazioni è forse Paolo. Questa è una cosa che ogni volta che sento discutere i miei amici valdesi è un punto problematico. Lo lascio anche questo al dibattito e alla discussione, avremo modo di andare. Do la parola adesso a Celeste Intartaglia del Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica. Buonasera a tutti. Mi sentite? Ecco. Okay. Buonasera, grazie dell'invito e procedo io con una riflessione che riprenderà alcuni punti della riflessione di Francesca qui e voglio parlare appunto, cominciare a dire su una riflessione linguistica. Nella lingua araba le parole che si usano per definire, per parlare di verità. Allora, in questo contributo appunto che si colloca nell'ambito di una discussione sul tema della verità in rapporto alla fede e alle sue manifestazioni presenti nel mondo odierno, io non vorrei tanto ripetere i percorsi della filosofia che definiscono la verità o i percorsi della teologia che discutono della verità nella religione, quanto soffermarmi almeno in parte sul modo in cui sia possibile all'uomo esprimere la verità della religione per mezzo dell'espressione linguistica, considerando come queste espressioni siano eventualmente traducibili, ovvero trasportabili da una cultura all'altra. E infine vorrei concludere anticipando qualche dato del prossimo numero della rivista Tuzarab del Pisai, che conterrà una rassegna delle tendenze del commentario coranico del XX secolo con un'antologia di testi in traduzione. Dunque noi lavoriamo molto sulle traduzioni e siamo impegnati a portare questi concetti da una lingua all'altra. Allora, naturalmente l'uomo è un essere definito essenzialmente dal suo parlare, dal suo codice linguistico o da più codici linguistici indispensabili per comunicare, cioè intendere, farsi capire, essere in dialogo. All'origine di ogni fenomeno culturale dunque si pone il linguaggio, che ne diventa il simbolo più immediatamente percepibile, forse quello più importante. E dunque appunto le lingue sono sistemi di segni vocali occasionalmente scritti, sono importanti appunto come sono il veicolo mediante il quale la maggior parte degli elementi di una cultura vengono trasmessi sia all'interno da una generazione all'altra, sia all'esterno da un popolo, da un gruppo all'altro. La lingua dunque è il legame vivo del singolo con una comunità linguistica, con un gruppo che condivide medesima storia e medesimo destino umano, dunque veicolo di identificazione con un gruppo e con i propri valori. Anche chi non lavora in ambito strettamente linguistico sa che non esistono due lingue capaci di esprimere esattamente la stessa percezione dell'universo materiale e spirituale, con la conseguente difficoltà pratica e quasi insormontabile di una perfetta traduzione da una lingua all'altra. E non a caso Umberto Eco ha intitolato il suo saggio sulla traduzione dire quasi la stessa cosa. Dunque, ogni lingua interpreta ed esprime una propria visione della realtà e per questa essa è al tempo stesso condizione e prodotto di una cultura particolare. Ed è anche un esercizio nella sfera del sentimento, non è solo un semplice esercizio dell'intelletto. Dunque io vorrei parlare adesso di indagare un pochino sul concetto di verità come è espresso nella lingua araba. E naturalmente tutti noi che studiamo queste cose partiamo dal Corano e passiamo attraverso il lisan all'arabo. Dunque scopriamo che questo concetto di verità non ha bisogno di quattro differenti radici con i loro derivati, in altre parole di quattro famiglie di parole. Dunque troveremo Haq, che è quello più diffuso, troveremo Qayyim con Qayyim e Mustaqim, troveremo Sawab, troveremo Sadaqa, Sidq, Tasdiq. Allora, Qayyim e Sawab ricorrono pochissime volte e sono associati all'idea di autenticità e rettitudine e nel Corano sono riferiti alla religione autentica, ad-Din al-Qayyim, agli scritti autentici, Qutub Qayyim, mentre in contesto moderno viene utilizzato anche per indicare qualcosa che non è curvo o contorto. Poi si utilizza per la conformità alla legge, da cui arriva il valore, concetto di valore o la preziosità di qualche cosa, e anche i valori etici che vengono detti Qayyim. Sawab invece ricorre unicamente una volta in contesto escatologico ed ad associato al dire parole giuste o rette. In altri contesti questa parola sawab indica la corrispondenza con l'obiettivo a cui si tende, tipo il centro di un bersaglio che si riesce a colpire esattamente. La radice sadaqa invece è ancora più, un po' più importante, ricorre molte volte nel Corano, è per lo più tradotto come dire la verità o essere veritiero. Tuttavia indica qualcosa di più profondo, perché implica integrità o l'essere vero per qualcuno. Rimanda anche ad una corrispondenza fra la realtà e quello che si esprime, tra il comportamento privato e quello pubblico. Rimanda anche alla qualità pubblica di proclamarsi alleato fedele di qualcuno, cioè di diventare un siddiq, come sarà definito ad esempio Abu Bakr per aver ritenuto il racconto del viaggio notturno del profeta, uno che ha creduto, ha ritenuto veritiero un racconto a prima vista, incredibile. O anche definisce un sadiq, cioè un amico. Archetipo di questa integrità è il profeta Abramo, per l'Islam il profeta Abramo, che fu uomo veridico e profeta, virgolettato. La veridicità, sidq, è una virtù che il credente acquista in quanto anche Dio è veritiero. Il termine sidq si applica dunque anche a Dio, nel senso che le sue minacce e le sue premesse non sono parole vuote. La frase sadaqa Allahu l'azim chiude ogni recitazione coranica. Ancora i sadiqun, sinceri, veridici, saranno nel testo, nel lessico sufi, i sinceri che perverranno, che pervengono a Dio. Infine ancora un termine derivato è tasdiq, che secondo i commentatori è associato alla fede, essendo questo tasdiq l'affermazione o attestazione della sua verità. In generale, commentatori e teologi definiscono la fede, cioè iman, come lo specifico atto di fede, inteso come attestazione, tasdiq, e riconoscimento, iqrar, della verità che esso comporta. È chiaro quindi che ci sono aree di identificazione anche con Islam, oltre che con iman. E qui c'è bisogno di una nota a piè di pagina, perché, come diceva il pastore prima, c'è questa cosa che la religione è fatta da noi, dagli uomini. Allora, com'è che la religione in arabo si dice din, e secondo un famoso detto profetico è composto da tre cose che cito nell'ordine in cui sono riportate, cioè l'Islam, che comprende in sostanza i doveri del culto, cioè la doppia attestazione di adesione, la preghiera, l'elemosina, il digiuno del Ramadan e il pellegrinaggio, i famosissimi pilastri della fede. I famosissimi pilastri, non aggiungiamo niente poi. Iman, che comprende, che traduciamo con fede, e che comprende le credenze interiori, cioè credere in Dio, credere negli angeli, nelle scritture, nei profeti, nell'ultimo giorno e nel decreto divino. E infine la terza è Ihsan, cioè ben agire. In sostanza è un comportamento, un dettato etico, nel senso di mettere in pratica i due punti precedenti. Storicamente è probabile che questa sia una elaborazione successiva. Io mi permetto di dire storicamente, perché i teologi non vogliono, musulmani dicono una parola così, ma a partire da altre parole di Muhammad. Ma il punto è che comunque questa è la risposta della comunità dei musulmani alla sua edificazione iniziale. Ora, ritornando invece alla verità, fra tutti i termini che ricoprono il significato di verità, i più utilizzati sono quelli che derivano dalla radice haqqa. Quindi haq, haqiqa, haqqa, ahaq, eccetera. Il significato originario della radice, che è preislamica e comune alle altre lingue semitiche, può essere ricondotto al senso di incidere una pietra o un metallo, scrivere o inscrivere. Da questo si potrebbe dedurre che il significato primario di haq sia fatto stabilito, oppure ciò che corrisponde ai fatti, e il significato derivato sia verità, ed entrambi in opposizione a batil, cioè l'essere vano. A questi poi si aggiunge un terzo significato, che è quello di diritto. Quindi quello che è disceso, cioè che è stato rivelato, è il vero, la V maiuscola. Questo termine designa nel Corano tutti e tre gli ambiti appena citati. È dunque utilizzato per indicare la verità, il diritto, ciò per cui i cieli e la terra sono stati creati, cioè il loro fine, o per mezzo del quale sono stati creati, cioè la saggezza divina, ma anche Dio stesso. Al-Haq è uno dei 99 bei nomi di Dio, forse uno dei più utilizzati, e racchiude il significato primario, cioè l'essere reale e l'essere vero. Le promesse di Dio poi sono vere, nel Corano 18:21, la sua parola è parola di verità, nel Corano 19:34, anche quando si riferisce a Gesù. Quanto al Corano, attraverso il retto cammino, cioè Sirat al-Mustaqim, esso guida alla verità, Yahtadi ilal-Haq. In altre parole, le verità rivelate nel Corano diventano il cammino per scoprire la verità delle cose, cioè i segni evidenti attraverso cui scoprire verità e realtà del Creatore e giungere alla certezza del suo incontro, attraverso la riflessione, anche attraverso i dubbi, combattendo le passioni, cioè tutto quello che accade con immediatezza all'uomo, dalla sua spontaneità fino alla sua ragione, qualora egli non ascoltasse che questo in opposizione a quel che gli è dato dal Ghaib, cioè dall'altro, con la maiuscola in questo caso. Nello stesso ambito di senso abbiamo Haqiqa, che indica la realtà e la verità, e che diventa nelle scienze linguistiche un termine tecnico per indicare il senso proprio di una parola in opposizione a majaz, che è il senso figurato. Dal senso primario appena esposto deriva il senso giuridico, dove haq, questa volta con un plurale, hukuk, traduce il diritto. In quanto obbligazione legale, è attestato nel Corano, dove evidentemente registra un senso precedente all'Islam e ovviamente attestato nelle opere giuridiche successive. La filosofia giuridica islamica intende il significato di haq come ciò che limita la libertà altrui. Troviamo dunque che si può tradurre sia con diritto al-haq fi shay'in che con dovere al-haq ala shay'in. Il diritto islamico in tutte le sue scuole distingue poi tra i diritti di Dio e i diritti degli uomini. Il diritto di Dio naturalmente è una metafora, ma che intende gli obblighi rituali, gli hudud e anche il jihad, cioè quanto ricade nella nozione occidentale di diritto pubblico. Diritti degli uomini invece comprende una lunga lista di diritti che regolano tutti i tipi di contratto che si possono risolvere in maniera discrezionale, tutto ciò che ricade nella nozione di diritto privato. Quindi è una cosa molto, molto ampia. E qui la seconda parte del mio intervento vorrei accennare al prossimo numero di Etuzarab, cioè il nostro lavoro di barcamenarsi tra una cultura e l'altra, e presentiamo appunto una rassegna del commentario coranico del XX secolo, in cui si discutono problemi di metodo e prospettive per il futuro secondo alcuni autori presi nella loro divisione geopolitica, cioè autori sunniti, sciiti, autori provenienti dal mondo asiatico. Il punto di partenza del dossier, che stavolta è preparato dal professor Massimo Campanini, è che si vorrebbe restituire al lavoro del commentario coranico la filosofia e la speculazione teoretica che a partire dal XIV secolo della nostra era ha lasciato il posto alla speculazione giuridica, così che il diritto ne ha inaridito la creatività a favore della ripetizione e della glossa. Campanini evidenzia il pensiero della prassi, cioè bisogna, dice, secondo lui, considerare il Corano come testo vivo e non più come un monumento fuori dal tempo e dello spazio. Gli autori che fanno parte di questa antologia sono Hassan Hanafi, egiziano, che parla di rivelazione e realtà, Nasr Hamid Abu Zaid, ancora egiziano, sulla questione del senso figurato presso i mutazziliti, abbiamo Mahmoud Zakzouk sul pensiero religioso contemporaneo e la scienza, Abdallah Yassin con la filosofia della storia, Shahrour e la sua lettura moderna del Corano. Forse questi autori non presentano una riflessione centrata sulla verità, strettamente sulla verità, ma essa è comunque sottintesa nella loro riflessione. Vi si riferisce ad esempio Hanafi, che è diventato anche lui vecchiotto, nato nel 35, che riflette da filosofo ma è ancorato all'esperienza religiosa quando parla di dato di fatto, che traduce il termine Corano waqia e intende quel che necessariamente accadrà come l'ultimo giorno e che non può essere negato, secondo questo autore, e continua spiegando che waqia è sinonimo di tasdiq, cioè il consenso, la pietra di paragone del sidq, che lui intende assenso. Vi si riferisce poi a Abu Zaid quando studia la razionalità dei mutaziliti e le loro soluzioni, a mio parere, moderne alle questioni teologiche. Vi si riferisce Shahrour, che è nato nel 38, quindi insomma anche lui non più, che è una interessante figura di ingegnere siriano che ha studiato a Mosca ed è stato docente di ingegneria civile all'Università di Damasco. È un intellettuale atipico, ma portatore di idee nuove e nuovi punti di vista per nulla astratti, anzi ben radicati nella società, che propone una lettura contemporanea di fenomeni espressi nell'Islam, alcuni fenomeni, non ultimo quello di al-wala o al-bara, che significa praticamente lealtà ai musulmani e il contrario a tutti gli altri, insieme alle loro istituzioni, dove propone Shahrour un discorso sulle diverse forme di lealtà dovute di volta in volta alla religione, allo Stato, alla società. Dunque, forse non è dedicato al tema della verità in senso stretto, ma conoscere un po' di più i testi delle altre religioni, in questo caso il Corano, è imprescindibile per qualsiasi tipo di dialogo. E io personalmente non mi riferisco solo al dialogo interreligioso, ma alla convivenza civile in una stessa comunità di persone portatrici di sistemi di credenze, di valori e di comportamenti diversi. Perché? Perché sottolineo l'importanza di discutere i contenuti della fede non come un set ben definito di regole di vita che ogni credente può interiorizzare, ma ampliando anche un po' di più, come un edificio psicolinguistico, sociale e storico. E a mio parere la sfida è tutta legata alla conoscenza. Grazie, finito questo. Grazie di questo contributo che ci spinge senz'altro a fare un lavoro anche di successivo di lettura e di approfondimento di questo, diceva uno dei usando nostri, almeno questa occasione dei nostri presidi precedenti, io vi do uno tuzzichino e poi voi a bocca. E infatti. Ora do la parola a Adele Orioli dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Buonasera, grazie. Allora, ringrazio anch'io tantissimo per l'invito, ringrazio anche perché nonostante sia passato un bel po', è stato citato in apertura la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'anno scorso ha compiuto 70 anni, ne sono passati 40 dalla sentenza costituzionale del 79, festeggeremo proprio tra pochi giorni, almeno noi come UAR festeggeremo il 12 aprile i 30 anni dalla 203 dell'89, cioè dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la laicità principio supremo dell'ordinamento. Ebbene, nonostante questa lunga storia che dovrebbe avere il concetto stesso di libertà religiosa, stenta ad affermarsi l'idea che la libertà religiosa sia anche libertà dalla religione e che quindi il diritto umano fondamentale di libertà religiosa includa necessariamente anche il diritto di non averne alcuna di religione e quindi anche il diritto di non credere. Effettivamente, nonostante questa strada e nonostante dovrebbe essere una pacifica considerazione, ringrazio appunto maggiormente chi ha questa questa attenzione verso, potremmo dire, l'altra metà del cielo della libertà religiosa, e dico appunto è una conquista che ancora stenta ad affermarsi. È stato citato il rapporto sulla libertà di religione credo presentato appunto a febbraio 2018 all'ONU. Bene, in occasione proprio della presentazione di quel report è stato chiesto ufficialmente dal rappresentante della Stato di Città del Vaticano di espungere il diritto di non credere tra i diritti umani fondamentali protetti dall'ONU. È vero che effettivamente si è beccata una rispostaccia, almeno questo devo dire da parte nostra sindacalmente, diciamo, Cicero Domus, fatemi dire che ci ha dato una certa soddisfazione. Purtuttavia è appunto agli atti, proprio in occasione di quando si è dovuto ai massimi vertici internazionali parlare della libertà di religione, la richiesta ufficiale di non considerare la libertà di non credere un diritto umano fondamentale, perché includerebbe automaticamente una patronizing idea of religion, cioè l'idea che la religione sarebbe oppressiva. Ora questo è un problema che sta negli occhi di chi guarda, lo dico proprio onestamente, insomma questo è un problema che si può porre chi guarda dall'altra parte. Noi ecco chiediamo semplicemente di usufruire del nostro diritto umano fondamentale, che è quello appunto di libertà religiosa, che include anche quella di non averne alcuna. Nella fattispecie poi come UAR abbiamo nome bruttarello, diciamolo, insomma, ce lo teniamo. Abbiamo scoperto che gli atei hanno anche la caratteristica di essere straordinariamente tradizionalisti. Sono 30 anni che esiste l'UAR, 15 anni che cerchiamo di cambiare questo nome, questo acronimo bruttarello, tra il ruggito venuto male e il ruttino, eppure i nostri soci non ci si riesce, appunto. Anche gli atei hanno le loro tradizioni, le loro radici, e quindi ecco questo nome bruttarello però include una R che ha un suo senso. La R è una R aggettiva, razionalisti, intende che noi sì siamo atei agnostici, quindi non abbiamo un'idea di una cosmogonia o di un'entità trascendente. Questo razionalisti vuol dire da un lato che però non sostituiamo quest'idea del trascendente con Wicca, oroscopi o New Age o scie chimiche, insomma, tanto per essere attuali e di moda. Dall'altro vuol dire però anche che non abbiamo assolutamente, essendo appunto razionalista un aggettivo del nostro essere, vuol dire anche che non abbiamo alcuna intenzione di osannare una dea ragione. Peraltro ricordo che anche Robespierre si fece tentare nell'ultimo periodo e prima di finire decapitato, fondò il culto dell'essere supremo e fondò la religione dell'essere supremo, quindi anche la dea ragione venne soppiantata da una cosmogonia successiva poco prima che facesse una finaccia, ecco, detto come si dice a Roma. Non abbiamo appunto alcuna intenzione di sostituire una nostra cosmogonia che appunto è priva di un essere trascendente, in questo, visto che voleva un po' di polemica, la metto un po' di polemica sul bellissimo peraltro documento introduttivo all'incontro di oggi. Ecco, anche si dice anche gli atei hanno questa intuizione. No, possiamo anche stare senza alcuna intuizione di un essere supremo trascendente e viverla benissimo lo stesso, insomma non siamo privi per questo di capacità relazionale, di capacità affettiva o di capacità etica o morale, di questo se posso parlerò velocemente dopo. Però ecco appunto, la R di razionalisti vuol dire anche però, essendo solo aggettivo, che non poniamo una dea ragione, non siamo scientisti. È vero che c'è un pericolo nel riconoscere la verità assoluta alla nostra ragione, che è fallace, umana, limitata, e anzi è proprio quello che a noi per certi versi piace in realtà del relativismo scientifico. A noi piace il metodo scientifico, che è diverso dal ritenere che la scienza sia verità infallibile in quanto tale. Noi preferiamo effettivamente il metodo scientifico, che è sempre come dire, supportato da verifiche, controverifiche e smentite dei suoi stessi risultati. Questo è ben lungi dall'assumere come totale o totalizzante una verità. E su questo infatti veniamo all'apparente contraddizione, perché a mio parere è solo apparente, di come un non credente, quindi un adogmatico per eccellenza, possa o non possa parlare di verità. Sono contenta di non essere io la prima a dirlo, anch'io avevo inteso questo titolo, nonostante la non voluta equivocità della grammatica italiana, pur tuttavia equivoca, anch'io avevo inteso al plurale tanto le fedi e tanto la verità, le verità. E quindi diciamo che era un piacevole equivoco, si poteva anche vedere, anche qui, dipende dagli occhi di chi guarda. Plurale, esattamente. E quindi proprio nel nome del pluralismo, che lo stesso titolo dell'incontro di oggi mi sembra indicare come percorso, a mio parere effettivamente c'è invece una verità, con la V maiuscola, che è anche la verità, che è quella che ci si chiede poi alla fine se c'è un luogo comune di incontro. E a mio parere non solo c'è, a mio parere c'è, ci deve essere. E sono i diritti umani fondamentali, che non sono delle comunità, sono dell'individuo. Ed esattamente come un diritto umano fondamentale è la libertà di religione, e quindi va garantito all'individuo la libertà di scelta. Ed esattamente come, devo dire, più fervidi credenti concordano pienamente con me nel dire che appunto se la religione è un dono, e se è davvero un dono prezioso va accettato con libertà e con consapevolezza. Bene, a mio parere questo è il terreno comune che lega tutte le possibili cosmogonie, tutte le possibili visioni del mondo. Ed è la libertà dell'individuo. Ricordiamoci che anche la nostra Costituzione, noi citiamo spesso l'articolo 3, che per carità, figuriamoci se non mi piace, siamo tutti uguali, senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione, eppure invece come non credenti abbiamo una lunga lista di discriminazioni che potremmo portare avanti, ecco. Ma sicuramente il terreno comune è quello della libertà dell'individuo, che deve essere libero di scegliere e di approcciare la propria cosmogonia, con l'indirizzo, con la guida, col sostentamento economico dello Stato, insomma dipende, ecco. Noi per esempio non credenti siamo contribuenti di serie A, perché paghiamo come tutti, ma assolutamente usufruiamo di servizi di serie B, pensiamo a, non abbiamo accesso all'8 per mille, ma non è solo questo, non abbiamo assistenza nelle carceri, non abbiamo assistenza a scuola, non abbiamo assistenza negli ospedali, non abbiamo diritto nemmeno a una sala per un commiato laico, le nostre cerimonie laico-umaniste non hanno alcun valore legale, e tutta una serie di limitazioni pesanti dovute al semplice fatto di essere non credenti. Nel mondo si è parlato della situazione internazionale, si è parlato del report dell'ONU. Bene, c'è il Freedom of Thought Report, che è un report internazionale curato dalla nostra consorella internazionale Humanist International, ex IU, International and Ethical Union, che ha cambiato da poco nome. Bene, è un, abbiamo presentato alla Camera dei Deputati in novembre, alla sala stampa della Camera dei Deputati in novembre. Bene, secondo questo rapporto internazionale che analizza le legislazioni di tutto il mondo, in 12 paesi al mondo essere atei comporta la pena di morte. In circa una quarantina comporta pesanti limitazioni, comprese la tortura e il carcere. L'Italia nel ranking mondiale per quanto riguarda la libertà di espressione dei non credenti è 158esima, tra il Burkina Faso e lo Sri Lanka. Ecco, questo è il terreno della verità, che quantomeno come non credenti a mio parere è assolutamente condivisibile. E va condiviso, perché noi lo scriviamo anche nel nostro manifesto di intenti, noi non siamo un'associazione antireligiosa, lungi da noi. Noi chiediamo il rispetto per le nostre posizioni, la prima condizione per poterlo pretendere è darlo. Ma il territorio deve essere quello, l'unico possibile comune della libertà individuale. E se posso chiudere con una sorta, perdonatemi, c'è chi direbbe slogan, ma si potrebbe anche dire dogma laico, perché siamo differenti ma abbiamo identici diritti. Grazie. Grazie. A me mi tocca però dire che almeno questo è un luogo che per tradizione, che comincia da lontano, nei primi momenti vagiti della Repubblica, quando si discuteva della Carta Costituzionale, almeno prove di testimonianze minoritarie sono sempre state date, a cominciare dal fondatore, che ha scelto scientemente la via anche dell'isolamento e della minoranza pur di battersi per i diritti di tutti. Certo. Allora, in un basso profilo. Concludiamo con il professor Piero Stefani della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, dopodiché io auspico che abbiamo messo sufficiente carne al fuoco per creare le occasioni per una interlocuzione feconda. Grazie. Sì, naturalmente sono venute fuori molte cose su cui mi piacerebbe intervenire, ma non lo faccio perché ognuno deve portare in prima istanza il proprio mattoncino. Allora, pensando anch'io alla presentazione, parto da un'osservazione di verità empirica, perché c'è questo livello di verità. E questo livello di verità empirica, che in questo caso accomuna tutti, è la constatazione che ci sono molte comunità religiose. Uso la parola religione senza entrare nella discussione, ecco, per l'uso corretto. Certamente anche non religiose, ma questo sia i religiosi che i non religiosi sono obbligati a constatare empiricamente l'esistenza di molte comunità religiose. Anche se uno può dire i contenuti di quelle comunità sono non condivisibili, anzi sono falsi, ma è vero che esistono. E questo è un dato di partenza significativo per una riflessione che qualcuno può assumere anche a livello diverso dalla pura constatazione. Però questo è un dato di constatazione. Non tutte queste comunità sono identiche tra loro nelle loro pretese di verità. Ci sono comunità religiose che hanno una pretesa di verità più robusta di altre. Come definirla, naturalmente, provvisoriamente? Beh, sono quelle che dicono che noi abbiamo una visione della realtà o di parte della realtà che vale non solo per noi, cioè che non è circoscritta all'ambito degli appartenenti alla nostra comunità. Gli esempi potrebbero essere moltissimi, ne faccio uno démodé, ma che ha avuto un'influenza enorme nella storia occidentale, non solo del pensiero, anche del pensiero, ma anche nella prassi, il cosiddetto peccato originale. Il peccato originale è sempre stato presentato come una verità che non ha un valore fondato sulla umanità comune, sulla legge di natura o queste forme di universalità razionale, ma si dice questo vale per tutti, per definizione. Ogni essere umano, maschio o femmina, che venga al mondo è caratterizzato dal peccato originale. Questo è un esempio, naturalmente, che è assolutamente simmetrico alla pretesa di queste tradizioni religiose cristiane di dire anche la redenzione ha un valore universale, ma le due cose ovviamente sono correlate, sono, anzi, per la verità è più complesso di così. È la redenzione che ci dice che c'è il peccato originale e non viceversa, ma questo è un sottinsieme del problema. Allora noi abbiamo questa diversa situazione in cui non tutte le comunità hanno le stesse pretese, ma ci sono alcune che hanno appunto questa pretesa di universalità, che vuol dire le mie, ripeto e concludo questo punto, alcune delle mie, almeno alcune delle mie dottrine non coincidono soltanto col mio ambito, ma si estendono a tutti. E questo è un dato, anche questo è empirico, nel senso che è empirico prendere atto che ci sono queste situazioni. Questa situazione di solito si dice anche da parte di teologi vari, che rende particolarmente problematico il dialogo interreligioso, perché laddove ci sono pretese di assolutismo, ognuno si dichiara portatore dell'elemento definitivo. E quindi come faccio a discutere con un altro se non vedendolo come copia sbiadita di me stesso? Cioè, sostanzialmente, la pienezza della verità, uso questo termine velocemente, l'abbiamo in questo ambito, l'altro certo ha parti di verità, ma in quanto è copia o sbiadita, una fortunata teologia del XX secolo in ambito cattolico parlava di cristiani anonimi, per esempio. Cioè, gli altri erano, insomma, qualcosa che ci assomiglia, ma appunto in senso non pieno. E quindi sembra impossibile. Del resto, però, l'empiria sta dimostrando negli ultimi decenni la presenza assolutamente crescente di un dialogo interreligioso che si dà. È anche vero che questo dialogo interreligioso, al di là delle valutazioni specifiche dei vari contesti, è un dialogo che avviene prevalentemente con una specie di epoché della propria pretesa di assolutezza. Per cui cerchiamo appunto quello che è comune e quello che è specifico è riservato all'interno delle singole comunità. Quando le singole comunità si ritrovano, dicono loro specifico le loro pretese di assolutezza. Quando dialogo tra di loro, cercano termini non fortemente connotati, ma tendenzialmente accomunanti. Anche qui gli esempi sarebbero moltissimi, ma per farne l'ultimo, così in ordine del tempo, forse il documento di Abu Dhabi è un documento che parla di Dio così, con un termine assolutamente generico, Dio. Nessuna comunità al proprio interno prega Dio in quel modo, si rivolge a Dio in quel modo, né i musulmani né i cattolici in questo caso. Questa è una delle ragioni per cui c'è questa specie di doppia verità, in cui l'affermazione esterna è posta su un certo piano, le affermazioni interne sono poste su un altro piano. Papa Francesco, che ha sottoscritto questo documento, fra qualche giorno, nella liturgia del Venerdì Santo, proclamerà Gesù Cristo Salvatore universale di tutti e dirà: possiamo pregare per gli altri appunto per questa ragione, possiamo pregare anche per gli atei per questa ragione. Che non la voglio, ma c'è la preghiera. Non siamo mai veramente atei. Perché c'è hai posto nel cuore umano una tale nostalgia di me, eccetera. Ah, lei non ce l'ha nel cuore umano una nostalgia. Ma così, no, adesso stiamo scherzando, ma la formula è proprio questa della preghiera per non credere, ecco, hai posto. Però appunto, questo doppio registro, si può uscire da questo doppio registro? Il problema naturalmente non posso risolverlo in questo momento, ma darò alcune, neanche in un altro momento, si intende, ma posso, adesso poi arriveremo alla scatologia anche noi, tranquillo, ma posso dare appunto alcune suggestioni, niente più che suggestioni, di qualcuno che ha riflettuto su questa questione. Allora, una, diciamo, risposta sarebbe di assumere come dato teologico, chiamiamolo così, la verità empirica. Cioè la verità empirica è l'esistenza di più comunità religiose, possiamo assumerla come dato teologico? Certamente ci sono state delle tradizioni, pensiero che l'hanno fatto. La formula più efficace sostanzialmente da molti secoli a questa parte è quella di Simmaco, che in polemica con Ambrogio dice: Dio è un mistero troppo grande per essere ricercato in un solo modo, per una sola via, per essere ricercato per una sola via. Questa è un'affermazione in cui il dato dell'esistenza di più religioni non è semplicemente un dato empirico, ma viene assunto come un pensiero che fa riferimento a questo che è stato citato anche in principio, indirettamente, questo mistero così profondo. Però, diciamo, il credente può accettare questa riflessione, però non la vive se davvero è intensamente credente. Non la vive perché la vive, diciamo, più alla Pascal. E cioè, come tutti sapete, non ti avrei cercato se non mi avessi già trovato. Dio dice, non mi cercheresti se non mi avessi già trovato. Quindi la ricerca è già... Cosa vuol dire questo? Che diciamo, perché mi hai già trovato? Perché io ti ho trovato. All'interno dell'orizzonte religioso tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato, perché io ti ho trovato. La fede è questo. È un altro modo per dire la fede, adesso lasciamo poi il relativismo e poi avere anche il nichilismo, ma non ti, adesso dopo nella discussione. La fede è questo, cioè la fede certo è una relazione, quello si dice in vari modi, in varie forme, ma se noi spieghiamo una parola come alleanza, che ha una grande importanza in tutto l'asse biblico, quindi ebraico-cristiano, l'alleanza... Ritte che si traduca alleanza o no, poi si può rivedere, ma comunque è Dio alla ricerca dell'uomo, quindi il credente non lo vive nella fede come sua ricerca, o meglio, vive la sua ricerca come risposta. Il credente è così, vive la sua ricerca come una risposta. E allora c'è una pretesa di assolutezza interna, diciamo così, dell'atto di credere. Leggo una frase di Simone Weil che andrebbe poi naturalmente considerata con maggiore attenzione, visto che la parola attenzione è la parola chiave di questa citazione. Ogni religione è l'unica vera. Vale a dire, nel momento in cui la si pensa, è necessario applicarle tanta attenzione è come se non ci fosse nient'altro. La sintesi delle religioni implica una qualità di attenzione inferiore. Però appunto c'è questo al-zob anche qua, insomma, come se. Ecco, come se. Questo come se non ci fosse nient'altro, però si sa che c'è qualcos'altro. Però non posso, diciamo, distrarmi, ci sono tante altre citazioni possibili, Ricoeur ha detto più o meno le stesse cose in altra forma, ma c'ho l'idea della profondità. Ma l'idea della profondità è molto importante nel momento in cui, se lo vivo con questa attenzione come se non ci fosse nient'altro, io non posso attribuire a questa situazione, diciamo, una dimensione contro qualcos'altro. Cioè, se io la vivo come una religione unica, chiamiamola così, non la vivo come una religione contro. questo è l'idea ricoeriana in pratica della profondità, cioè se io la vivo come esperienza assoluta unica non la vivo, e quindi, e questo è molto importante, non posso appoggiarmi a nient'altro esterno per garantirla, e qui c'è la ricaduta, diciamo, diretta sul piano politico, perché ogni, diciamo, struttura di sostegno della componente religiosa esterna alla assolutezza che io posso vivere dentro questa tradizione la inquina, la rende appunto qualcos'altro. Se volessimo usare la categoria del pastore, parte, cioè, citate il pastore Gajewski, rende religione una fede. E quindi questa è, diciamo, la risposta esterna, cioè la ricaduta esterna di questo vissuto interno, che può portare, con questo io concludo, può portare anche a una ricaduta politica. Su questo, in questo senso c'è una bella frase dell'ex primate anglicano Rowan Williams, che dice così, con cui concludo, poi commentandola rapidamente, anzi forse neanche commentandola: non esiste alcun punto d'osservazione al di sopra di tutte le tradizioni e teologie dal quale qualcuno possa decidere. Non c'è alcuna commissione esaminatrice. Ma questo significa pure che non esiste alcuna prospettiva dalla quale qualcuno possa dire: sono tutti modi diversi di guardare alla stessa cosa. C'è qualcuno che dice: vabbè, siamo su. Se sono una persona di fede, la cui esistenza è vissuta in una relazione globale con quanto ritengo essere la sorgente e il contesto di tutta la mia vita, non posso appellarmi per fornirmi delle credenziali a qualcuno che sta al di fuori nel neutrale mondo pubblico. Una società non teocratica, cioè salto qualche... cioè ho fatto dei salti, per cui non ce l'ho tutto scritto, qualche pensiero dopo. Una società non teocratica consente l'autentica contesa sulla verità religiosa per il solo fatto di dare spazio a diverse esperienze e visioni dell'universo, sia per questo, sia per un impegno reciproco, sia per essere se stessi. Ecco, allora, lo spazio pubblico è quello che in qualche modo, diceva forse in altra maniera il pastore Gajewski, deve consentire il confronto di pretese diverse, appunto perché le pretese di assolutezza di ciascuno, se è veramente tale, non possono appoggiare su stampelle altrui e appunto forme di collateralismi intellettuali, razionali o naturalmente anche istituzionali. Anche istituzionali. Non rende molto precario poi lo spazio pubblico? Questa è già la discussione. Questa è già la discussione. Questa è già la discussione. Sì, sì. Devo rispondere, no, sono in la discussione, io ho finito qua, adesso no, se io posso rispondere se l'ordine alfabetico è copovolto, adesso questo ordine così è, diciamo, di tipo enciclopedico, perché non siamo più una summa in cui si comincia lì, ma siamo enciclopedici. Questo è quello che volevo dire, come avete capito certamente, è soltanto una fetta del problema, visto dall'interno delle comunità religiose, perché l'esperienza di assolutezza di una comunità religiosa può consentire, proprio per questo, nella sua fedeltà, il pluralismo del confronto nello spazio pubblico. Io volevo dire solo questo, non dico che questo sia sufficiente, ovviamente, perché lo spazio pubblico deve vedere come da sua parte riuscire a gestire e favorire, ma no, siccome non tutte le pretese di assolutezza hanno rinunciato alla stampelle, questo è il problema, appunto. Quindi è il discorso interno il mio, non me ne parlo. E per esempio, proprio a partire da questo, non tutte le comunità di fede si può dire che hanno lo stesso interesse alla favorire e attivare questo confronto. E poi si può cadere sia nella, usiamo questo termine biblico, nella tentazione del proselitismo o nella tentazione di una vocazione minoritaria di assolutismo, cioè di una comunità assolutamente chiusa. Però queste sono solamente alcune suggestioni possibili, per cui se poi la comunità chiusa non ha nessun risvolto che in qualche maniera incide sullo spazio pubblico, è una monade. Infatti. Comunque, siccome non voglio però essere io ad attivare la discussione su questo, chiedo come cominciamo la nostra discussione su questo, sull'insieme delle comunicazioni fatte, quali suggestioni, dicendo chiaramente che il nostro approccio attraverso questo faticoso percorso di seminari eccetera ovviamente può intrecciare le diverse tematiche, di fatto le intreccia, perché abbiamo parlato di appartenenze quando in realtà poi, o di verità quando parlavamo di appartenenze, e per forza di cosa parliamo di diritti, per esempio, quando parliamo di verità e così via. Per cui concludo anche con un invito di carattere logistico, che ovviamente tutti siete invitati, a prescindere dal ruolo formale nelle cose, anche alle successive sessioni di questo itinerario, che altri anche vicini a noi culturalmente, politicamente, come per esempio sappiamo che presso la Fondazione Astrid c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando ad un progetto di legge sulla libertà religiosa. Forse non è escluso che noi arriveremo anche a quel punto, però volevamo arrivarci non attraverso il confronto delle legislazioni, un approccio giuridicistico eccetera, ma tentando di scavare prima un po' sulle ragioni di fondo di questa necessità civile, diciamo. Posso intervenire se nessuno interviene? Certo. No, ma se ci sono altri, mi chiamano. Rilancia. Non perdere lo spunto che deve, soprattutto dall'ultimo. Devo dire che innanzitutto ringrazio tutti quanti, perché così come nella prima volta, poi Giacomo dirà meglio nelle conclusioni, il livello degli interventi è molto stimolante, interessante, profondo, e quindi siamo da questo punto di vista molto soddisfatti. Però non volevo lasciar cadere l'ultima questione, perché mi sta particolarmente a cuore. Prima di tutto però una osservazione sull'atteggiamento della curiosità scientifica che c'è nello schema che abbiamo proposto, là dove si dice che anche nel laico che non voglia cadere nel pirronismo, cioè nello scienziato. C'è l'idea che qua davanti ci sia qualcosa piuttosto che niente, quindi c'è un atteggiamento implicitamente realista, per dirlo in termini filosofici, che non è una fede, ma che motiva la ricerca. E quindi c'è un atteggiamento di curiosità che appunto non è nella verità ultima delle cose, ma è in una verità sempre migliore. In questo senso, diciamo, c'era una sorta di assimilazione e di presa di distanza dallo scetticismo o dal relativismo assoluto, che rende poi entropica la società, perché appunto non consente. No, invece mi interessava molto, perché mi sembra che sia il punto nodale. Io capisco che senza la passione, diciamo, quindi io la vedo così, senza l'amore, senza la convinzione, quella che Lelio Basso chiamava, riferendosi a Rudolf Otto, quella la presenza del luminoso, no? Nell'esperienza estetica, certe volte, diciamo, appunto, pure nell'esperienza mistica del religioso. Senza quello, diciamo, appunto, poi tutto quanto perde mordente, quindi diciamo c'è quasi un comportamento tra persone educate cui non corrisponde però la sostanza e la ricchezza principale dell'atteggiamento della fede. Però l'altra volta anche, dove abbiamo avuto degli interventi analoghi, perché c'era, se lo ricorderà, cioè l'atteggiamento di tutte le persone che sono venute qui a parlare era quello di rivendicare in una certa misura, nell'ambito di un discorso sull'appartenenza, le ragioni della propria identità, le ragioni profonde che l'antropologo, il filosofo, il religioso, il sociologo non può nascondere, le ragioni profonde della identità ebraica, del buddista, diciamo, no? Che sono quelle dell'induista. Però, diciamo, con la stessa forza che c'è stata apposta sulla fattualità della pluralità religiosa, l'ultimo intervento partiva appunto da questo fatto, e c'è anche il fatto che se uno guarda l'albero delle religioni vede un fenomeno che nella storia dell'umanità ha un andamento frattalico, cioè da due, tre ceppi la storia dell'umanità una decina di migliaia di anni, forse meno, ha prodotto, io mi pare che ne ho contati 10.000 negli alberi fatti dalla Fondazione 40, che ha mappato, no, forse 10.000 no, però un migliaio sì, diciamo, quindi siamo nell'ordine di grandezza, perché le lingue riconosciute sono 6.000, mi pare, dall'uomo. Cioè siamo nell'ordine di grandezza come fatto che le fedi religiose, oppure le scuole, perché poi laggiù appunto c'è la grande famiglia dei cristiani che poi si segmenta, gli indù che si segmentano, però diciamo questa è una fenomenologia strana, diciamo, che l'uomo che crede gli deve suscitare pure una forza di dubbio, con la stessa passione che ci mette nell'amore, quella stessa passione che viene rivendicata come forza inevitabile, diciamo, per la costituzione anche della propria disponibilità a parlare con gli altri, e deve dire, vabbè, però, diciamo, c'è questo fenomeno, appunto, che è un fenomeno, è come la storia, appunto, che nella Costituzione norvegese ci sia un principio del 1555, cioè della pace di Augusta e poi quella di Vestfalia, cioè del cuius regio, eius regio, no? È una cosa che fa ridere se uno la guarda, eppure quella sta nella Costituzione, no, fa ridere adesso. Allora quella potenza, diciamo, quella è certa, è strano. No, però voglio dire, anche appunto, a me, anche dal punto di vista appunto di chi si pone all'interno di uno di quei canali e dice sì, va bene, io mi giustifico perché appunto è quel rapporto diretto con la mia fede, diciamo, poi che modifica, che la mia identità, che costituisce la mia identità, il mio modo di pormi con le altre persone, però c'è un problema appunto di un mondo che è globalizzato, in cui appunto quella frammentazione frattalica delle credenze religiose non si comprende alla luce della velocità dei processi di comunicazione, e quindi sembra che si crei, diciamo, appunto lì pure un'entropia. Allora la cosa che si chiede al credente nell'ambito spazio pubblico è di metterci lo stesso amore che rivendica nella esaltazione, nel riconoscimento della propria tradizione millenaria, e che certo noi non scardineremo qua, questo sia ben chiaro, quello stesso amore di dire no, però quello che sta nel ramo vicino della mia religione, io ci devo parlare in qualche modo e ne devo riconoscere anche lui il valore. Però appunto il problema, diciamo, della, insomma, non della firma convenzionale e tra persone per bene di un protocollo, alla fine, diciamo, di una riunione a Chicago piuttosto che un'altra parte, diciamo, quello, ecco, quella motivazione di passione che non si vede, ecco, i fenomeni che si vedono di esaltazione della passione religiosa sono purtroppo fenomeni identitari che portano a scuoiare il proprio prossimo, ecco, questo è il preoccupante. Luigi Sandri. L'italiano come lingua ha una debolezza, che le parole con l'accento in A sono singolari e plurali, no? E quindi, giustamente, come diceva la nostra UAR, dire verità in un titolo è la verità o le verità, e questo bisogna sempre ricordarselo. In russo questo equivoco non ci sarebbe. Ma voglio dire che nelle scritture ebraiche c'è scritto: come dista la terra dal cielo, così distano i miei pensieri dai vostri. Cioè, dire, questo vale per tutti naturalmente, che pensano in qualche al di là. Quando parliamo di questo, diciamo Dio, lo usiamo in modo antropomorfico. E bisogna essere sempre consapevoli. Questa sera qui si è parlato in stile occidentale, perché nel mondo buddista, nel mondo shintoista, nel mondo giapponese, la stessa idea di Dio, di così, è tutta un'altra cosa, è veramente complicato. Ma dalle cose dette deriva una conseguenza che purtroppo storicamente non c'è mai stata, ma ci dovrebbe essere, che lo statuto delle missioni, cioè dell'andare in giro a convertire, è senza senso di per sé. Eppure non tutte, ma molte religioni hanno l'idea di andare, e nel Vangelo c'è scritto alla fine di Matteo: andate in tutto il mondo a predicare. Che è difficile poi fare questo senza usare la spada, perché se uno è testone e non si vuole proprio convertire, si fa magari l'inquisizione, perché quello è testone, che dobbiamo fare? E questo ci porterebbe a grandi discussioni. Non so se avete notato che il mese scorso, cioè in marzo, il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha scritto una lettera al Santo Padre e al re di Spagna, Felipe VI, perché nel 2021 facciano un atto pubblico di mea culpa per quello che hanno combinato i conquistadores quando hanno preso il Messico. Chi non sapesse cosa hanno combinato, non leggendo qualche ateo anticlericale, ma leggendo Bartolomé de las Casas, la brevissima descrizione sopra la distruzione della Sindia, sa che cosa hanno fatto gli spagnoli, i soldati con la spada, i missionari benedicendo quello che facevano, ci sono torture spaventose, e la Spagna ha detto no, bisogna giudicare quella cosa con i criteri di allora, adesso no, e quindi il Papa non ha risposto, staremo a vedere. Per dire che la storia è seminata di grandi questioni che ci pongono infiniti problemi, e io capisco perfettamente la nostra amica, perché se si guarda la storia, le religioni non è che hanno fatto tutto bene o tutto male, hanno fatto questo e quello. Quando hanno inventato il coltello, non so chi ha preso il premio Nobel 100.000 anni fa inventando il coltello, col coltello tagliavano l'agnello e col coltello strapassavano il cuore del nemico, no? Cioè è un uso ambiguo delle cose, no? Così le religioni, allora e oggi naturalmente, possono spingere, sollecitare a situazioni, a scelte meravigliose o a scelte crudeli. Per parlare in positivo, i cattolici potrebbero citare Francesco d'Assisi, che è una cosa più stupefacente, ma anche lui è uno che ha studiato, non è nato studiato, ha dovuto studiare, forse non tutti sanno che quando esattamente 7 secoli fa, nel 2019, andò da Mieta per cercare di mettere la pace tra i crociati, perché lui considerava giusta la crociata, perché era figlio del suo tempo. Ma quando ha visto che quelli stavano a litigare, è passato nel campo del sultano e ha fatto il famoso dialogo, eccetera, eccetera, e ha imparato tante cose che poi hanno deciso molto della sua vita. E infine io penso che dal punto di vista personale, ognuno che abbia una fede, quale che sia, può dare anche la vita per questa fede, può testimoniarla dando la vita. Ma quando questo diventa sociale, bisogna bene stare attenti, perché, come la storia dimostra, perché quando molti si mettono insieme ritenendo di avere da Dio la verità, diventano violenti. Come fai tu a non diventare violento se lei, che è musulmana, si ostina a rimanere musulmana e io ho il potere politico per obbligarla a cambiare finalmente posizione? Cioè il fatto di pensare di possedere la verità singolare, V maiuscola, quasi inevitabilmente, ma la storia dice inevitabilmente, crea violenza. E su questo non si riflette abbastanza, tanto più quando uno pensa che in nome di Dio io posso violare i tuoi diritti. E allora come si fa? Finisco dicendo, una volta a Mosca, io ho lavorato a Mosca per l'ANSA, ho discusso con un fisico sovietico, sai, sovietici ai tempi, quelli doc, mica dopo, quando la religione ufficiale era l'ateismo. Questa è un'altra questione, perché l'ateismo è diventato religione ufficiale, perché insegnavano nelle scuole l'ateismo. E io lavoravo, l'ANSA stava qui, e qui c'era la scuola elementare, sono andato a vedere, e hanno dimostrato a scuola terza elementare perché Dio non c'è. Dimostrato. Perché non c'è? Ma come non c'è? Abbiamo andato su Gagarin, sapete Gagarin, il primo è andato su, e lui ha guardato a destra, ha guardato a sinistra, Dio veramente non c'era. Ha visto che non c'era, quindi ha dimostrato che Dio non c'è. Avete capito? E hanno fatto molti morti, molti, molti morti. E quindi credo che, non dico noi che sto sentendo, ma insomma in generale, gli eredi soprattutto delle grandi religioni, perché le grandi religioni hanno più potere, grandi nel senso di numero, perché se i cattolici in Italia fossero 125 avranno la verità, ma non interessa a nessuno, ma adesso c'hanno il concordato, giustamente, no? Le grandi religioni devono veramente interrogarsi, e io penso che da queste così interessanti discussioni potremmo noi dire, cioè nel nostro piccolo si intende, fare un appello ad una riflessione, che la libertà di coscienza è veramente inviolabile, inviolabile, e non può essere costruito uno Stato che in qualche modo violi la coscienza perché questo Stato ha una religione civile che ha la verità in tasca. Guardate la questione dei gay, degli omosessuali, tutto questo, anche le aperture attuali del pontificato attuale, non bisogna, secondo me c'è un'illusione ottica, perché il nostro Santo Padre dice sempre, bisogna avere comprensione, va bene, però il principio è che l'omosessualità è sbagliata. Poi io, che sono molto magnanimo, non ti metto più a rogo, ma invece bisogna mettere in discussione i principi quando violano la libertà di coscienza, e questo purtroppo in Italia si fa in parte, ma ancora molto resta da fare. Avanti, un altro o un'altra? Prego. Eh no, perché abbiamo un problema di registrazione. Sì. Grazie. Cortesemente mi dice il suo nome, allora, qua dentro, così. Giuseppe De Cesaris. Giuseppe De Cesaris, non sono un teologo di formazione, ma sono un ingegnere elettronico. Perfetto. E poi a un certo punto è stato preso dalla curiosità di capire cos'era la stella di Betlemme. Questo una ventina di anni fa. E poi da lì sono venute fuori tante altre cose che arrivano fino ad Heidegger, a Nietzsche, a Rilke. Però ecco, ritorniamo un attimo indietro. Allora, io ho letto questa pagina che avete incluso qui, ho stampato da internet, come guida della riunione di oggi. E si chiedeva di esaminare se tra le principali religioni ci fosse qualche elemento di condivisione, di continuità, oppure se ci fossero poi anche degli elementi invece di irriducibile diversità e come questi potevano eventualmente essere affrontati. Allora, i miei studi ormai ventennali, perché questo libro che ho scritto è del 2001, è stato pubblicato a mie spese, Congiunzioni Giove-Saturno e Storia Giudaico-Cristiana, è di circa 20 anni fa questo, perché è stato stampato nel 2001, vedete? Ma ci lavoravo già da 2 o 3 anni, insomma, a tutto questo. Allora, io credo di averlo scoperto, un elemento di continuità tra le tre religioni del libro, e l'elemento di continuità è un elemento appunto di tipo astronomico, sono le congiunzioni planetarie tra questi due pianeti, i due pianeti più grandi del Sistema Solare, che in Mesopotamia e secondo tutta la mitologia greca erano i due principali dei del tempo, no? Prima Cronos, Saturno, che fa un giro in circa 30 anni, 29 anni, 46, e poi Saturno, che ha spodestato il padre. Saturno mangiava i figli, no? Sappiamo tutti la storia leggendaria e mitologica. Poi il nuovo dio del tempo è diventato appunto Saturno, che invece impiega circa 12 anni. Che ho detto? Ah no, Giove, sì, Giove che invece ne impiega circa 12, 11,86 per l'esattezza. Allora, questi due pianeti, Giove è più vicino, quindi è più veloce per questioni kepleriane, per non cadere sul Sole, in sostanza, per essere stabile come orbita, e ogni 19 anni e 314 giorni prende un giro, supera di un giro Saturno e si allinea con Saturno. Però le modalità con cui avviene questo tipo di fenomeno dipendono strettamente da dove si trova la Terra in quel momento. La Terra sta molto più vicina al Sole, sta a un'unità astronomica, mentre loro stanno uno a 5,2 unità astronomiche e Saturno sta quasi al doppio, sta a 10,6. Ora, a seconda quindi di dove sta la Terra sulla sua orbita, questo fenomeno può durare o circa 9 mesi, la durata di una gravidanza umana nel cielo notturno, ed essere benissimo visibile da tutti. Oppure invece, se la Terra è stata la parte opposta della sua orbita mentre i due pianeti vanno in congiunzione, allora c'è il Sole di mezzo e il fenomeno passa quasi, diciamo, rimane quasi invisibile. Si può vedere o la mattina presto o la sera tardi, ma a volte avviene proprio nel mezzogiorno, nel Mittag, che tanta importanza aveva per Nietzsche, no? E allora non vedi niente se non sai che il fenomeno sta avvenendo. Allora, dai miei studi ventennali, appunto, risulta che quello che stava vedendo Isaia nel 741 avanti Cristo, quando diceva che lui, il Dio, lo vedeva, lo aveva davanti agli occhi, era la stessa cosa che stava vedendo Maometto a primavera del 610, quando sulla collina, alla periferia della Mecca, stava ritirato in colloquio con Dio. Cioè aveva una congiunzione Giove-Saturno davanti agli occhi, Maometto. E ce l'aveva proprio mentre c'era uno spicchio di luna e la congiunzione stava avvenendo qui vicino. Cioè il simbolo che oggi sta in tutte le bandiere dei principali, di quasi tutti gli stati musulmani, va bene? Alcuni fatto meglio, alcuni fatto peggio, perché ovviamente non può stare la stella dentro la luna, perché la luna lo occulterebbe quella stella, però la Turchia ce l'ha vicino, quello fatto meglio, va bene? Era la stessa cosa, quindi quello che vedeva Isaia, di quello che vedeva Maometto a marzo del 610, di quello che vedeva Paolo di Tarso sulla via di Damasco nelle ultime settimane dell'agosto del 35, va bene? Ecco, allora questo, secondo me, secondo le mie modeste convinzioni laiche e scientifiche, è un elemento preciso, precisissimo, di continuità tra le tre religioni cosiddette del libro. Bene. E ognuna ha creduto di avere riscoperto quella che l'altra, che era venuta prima, aveva già scoperto, cioè di seguire lo stesso fenomeno e quindi di avere capito perfettamente quali erano i fondamenti teologici della religione precedente. La terza che è venuta in ordine è stato l'Islam, che quindi ha preteso di avere capito tutto quello che avevano, su cui avevano fondato le loro teologie, tanto gli ebrei quanto i cristiani, e quindi hanno avanzato la pretesa di, come dire, di mettere il sigillo a questa storia, di avere capito che cosa aveva visto Abramo nel 1753 avanti Cristo. Io cito queste date con precisione perché oggi ci sono decine di programmi planetari che girano sui computer, che si possono molti scaricare gratuitamente, altri con piccole somme, 40, 50, 80 euro, va bene? E che perfettamente è come se fosse un orologio cosmico che permettono di mandarlo in avanti o indietro come ti pare. Va bene? Quindi verificare tutta una serie. Io in questo libro ho trovato che ci sono decine e decine di coincidenze. Capito? Quando Costantino parte da Treviri per venire a combattere Massenzio a Roma e poi non lo attacca ma aspetta lì sui colli tra la Cassia e la Flaminia che passi del tempo, perché è arrivato in anticipo e sta aspettando che i due pianeti vadano in congiunzione, capito? Cosa che hanno fatto a dicembre del 312, e la battaglia non si sarebbe svolta prima se non fosse uscito Massenzio da Roma, capisci? Ecco, allora io credo che i vostri discorsi che ho sentito sono tutti apprezzabili, tutti dignitosi, tutti rispettabili. Va bene? Però se voi andate avanti così a scoprire quali sono gli elementi comuni delle tre teologie, ci arriverete tra 50, tra 100, tra 200 anni. Capito? Allora. Lenti ma inesorabili, sì, tra 3 o 4 secoli scopriranno, capito? Allora io ho donato una copia di questo libro alla biblioteca della fondazione. Grazie. Vi dico anche qual è il link al mio blog, se volete. Io mi chiamo Giuseppe De Cesaris, basta che lo scrivete su Google. La prima cosa che esce è il mio blog, e lì ci trovate 410 articoli che illustrano tutti questi diversi aspetti che ho scoperto. Grazie. Negli ultimi 20 anni, partendo appunto da cercare di capire cos'era la stella di Betlemme. Grazie. Che era una congiunzione Giove-Saturno tripla. Possiamo continuare la nostra discussione? Giorgio, tu che sei un appassionato. No, ma io non ho niente. No, poi no, ho parlato a lungo l'altra volta. No, forse soltanto due cose. Una è circa il postulato, il desideratum di uno Stato laico che sia appunto garante del rispetto neutrale della diversità religiosa e del pluralismo, che appunto è una verità empirica, cioè è un fatto che diciamo storicamente rilevante, che è successo anche nella nostra Italietta, cioè è cambiata profondamente, no? Negli ultimi 20-30 anni, ed è molto importante riconoscere, diciamo, questa certe volte dico più pluralità che non pluralismo, nel senso che la pluralità vuol dire che appunto c'è uno spettro di diversità, no? di una varietà di confessioni, comunità religiose. Il pluralismo è il rispetto dell'altro, ecco, è rispetto, come dire, tollerante, pieno dell'altro, e forse lì falliamo. Anche per esempio, anche in seno all'ebraismo c'è una pluralità dell'essere ebreo, dei modi di vivere l'identità ebraica. Ma il pluralismo, diciamo, anche fra di noi, qualche volta, come dire, c'è una pulsione fondamentalista anche in alcuni segmenti dell'ebraismo, per cui ancorché diciamo nell'ebraismo ci sia una radice di pluralismo antifondamentalista, perché c'è la Torah, ci sono gli altri libri, la Torah, forse ne ho parlato un pochino l'altra volta, la Torah orale ha la stessa dignità di verità e anche epistemologicamente della Torah scritta, quindi c'è un elemento di pluralismo antifondamentalista, però insomma anche noi abbiamo un po' di deviazioni e degenerazioni fondamentaliste o integraliste, insomma. In ogni caso, questa questione effettivamente dello spazio pubblico quindi di uno Stato laico che sia garante, diciamo neutrale della diversità religiosa e e della libertà, insomma, è molto importante. Il fatto che in Italia, no, effettivamente, lei tu hai alluso a questo lavoro di riflessione su una legge sulla libertà religiosa. No, mi interessa molto questo, perché è importante, cioè è una lacuna legislativa molto seria nel nostro paese rispetto ad altri paesi industrialmente avanzati, mi pare. Cioè il fatto che non ci sia, se capisco bene, no? Perché non sono molto dilettanti in questo, non c'è in Italia una legge sulla libertà religiosa, ecco. Quindi questo, sì, lunghi tentativi, ecco. Però voglio dire, riflettere su questo, premere, anche se il contesto politico, insomma, aiuto, come dire, esattamente, non è propizio, mi pare molto importante. L'altro punto, ecco, che volevo fare è che, in parte ho già detto anche l'altra volta, ma ho trovato, insomma, nella riflessione di oggi uno stimolo simile, è che questa, diciamo, questa idea del confronto, diciamo, tra religioni, comunità, confessioni è molto importante, molto positivo. E, io certe volte uso più il termine confronto che non dialogo, perché dialogo alcune volte, forse meno oggi che in passato, però certamente un tempo il termine dialogo tendeva ad alludere a un dissolversi delle differenze, insomma, in un qualcosa, no, di un po' misticamente, sì. Invece esattamente, invece il confronto anche conflittuale ma non violento. Ricordo un frammento di Lévi-Strauss in cui lui diceva il confronto anche confliggente, come dire, fra religioni è un qualcosa, fra culture è un qualcosa che produce progresso nell'umanità. E quindi mi piace più il tema, ma comunque questo, diciamo, non è così importante. Dico, è molto importante però un principio, e soprattutto questo è importante per delle identità di minoranza come la mia, come la nostra, ovviamente, e cioè il fatto che le identità di minoranza, siano esse religiose o storico-culturali, eccetera, eccetera, che nell'ebraismo, appunto, la cosa è complessa, perché l'ebraismo è una, insomma, l'ebraismo è una religione, ma è anche un insieme di altre cose, ecco. Quindi la cosa importante per tutti, ma certamente noi la viviamo oggi come in passato, come un imperativo cruciale, è che le culture, diciamo, di minoranza non siano chiamate a conformarsi alle culture egemoni. Cioè, come dire, il dialogo ha da esserci, ma ci deve essere questo postulato che sia riconosciuto. Ha ragione la compagna degli altri, perché, insomma, come dire, insomma, questo è un punto molto importante. Se un terzo punto, ecco, questo più dal lato giuridico, se ricordo, quando iniziò l'iter delle intese, no? Delle intese, che è stato così importante, per esempio nel mondo ebraico italiano ci furono opinioni diverse, cioè nel senso che alcuni, diciamo, sostenevano che era così importante l'autonomia, difendere, diciamo, la propria autonomia religiosa, rituale, eccetera, eccetera, e che le intese con lo Stato l'avrebbero, come dire, limitata, violata, eccetera, eccetera. Poi, diciamo, ha vinto un'opinione maggioritaria, penso saggia adesso, retrospettivamente, mi pare che l'intesa con l'Unione delle Comunità Ebraiche risalga a metà degli anni 80, credo, no? 86, 87, esattamente. Esattamente, e quindi fu molto importante. Ma una componente successiva all'intesa, che per esempio, in cui trovo questa questione un pochino dell'autonomia, del dibattito ebraico sull'autonomia in Italia, fu la questione dell'8 per mille. Cioè, nel Consiglio dell'Unione delle Comunità Ebraiche ci fu un lungo dibattito per anni sulla questione dell'8 per mille. Perché? Perché alcuni dicevano, ma insomma, questo viola l'autonomia, ma per che cavolo dobbiamo ricorrere all'8 per mille? Molti altri, data la condizione poi dei beni culturali, ma ci sono anche delle ragioni pratiche, i beni culturali ebraici, le sinagoghe abbandonate, i musei latenti, i cimiteri dismessi, eccetera, eccetera, c'è stato poi un motivo, se vogliamo, anche molto pratico nel ricorrere utilmente all'8 per mille. Fra l'altro, cioè gli ebrei iscritti alla comunità ebraica in Italia sono intorno a 25.000, noi abbiamo, mi pare, grosso modo, almeno fino agli ultimi anni, 50-60.000 contributori all'8 per 1000 per le comunità ebraiche, quindi in un certo senso, adesso lo dico in senso insomma, non grettamente utilitaristico, ma proprio fattuale, è una cosa benefica ovviamente per una piccola entità come la nostra. Però ecco, questa è una questione effettivamente che probabilmente rileva anche per molte altre comunità religiose, non è soltanto nostra. Ecco, piccola riflessione. Grazie, certo. Sì, sì. Proprio perché è stato citato già due volte il gruppo di lavoro Astrid, io ne ho fatto parte per 4 anni, quindi giusto per rendere a grandi linee com'è la situazione legislativa attualmente in Italia, noi lo chiamiamo un multiconfessionalismo multipiramidale, una piramide multilevel, perché attualmente legislativamente noi abbiamo la punta massima di questa piramide, la Chiesa Cattolica ex articolo 7 Costituzione indipendente sovrana, abbiamo poi all'articolo 8 al gradino sotto le confessioni di minoranza che addivengono a un'intesa con lo Stato secondo quanto ci insegna la Corte Costituzionale 52/2016 è però a discrezione totale dello Stato decidere con chi, come, quando fare una trattativa. Noi atei siamo le prime vittime, tutto il mondo islamico sono assolutamente le vittime 1 bis, nel senso è evidente che insomma sarebbe anche da parlare di questo, del perché si dice non si può fare un'intesa con l'Islam, perché non c'è un unico Islam, abbiamo 5 intese con le confessioni cristiane senza che si ponga alcun problema di questa molteplicità di intese al di sotto di un unico ombrello. Ma comunque andiamo oltre, abbiamo queste intese a discrezione dello Stato, quindi lo Stato decide con chi intavolare trattative e con chi, questo sempre secondo la Corte Costituzionale in recente sentenza, che quindi vede piena discrezionalità politica del governo decidere con te parlo, con te no, assolutamente senza alcuna possibilità di censura. Al di sotto abbiamo quella che dovrebbe essere la nostra legge sulla libertà religiosa, che però è una legge fascista e si chiama legge sui culti ammessi. E già questo la dice lunga su quello che è l'aria liberale che si respira in termini di organizzazioni delle confessioni religiose nel nostro paese. Già solo che sia il concetto di un culto ammesso o non ammesso è abbastanza agghiacciante, ma andiamo oltre, perché oltre a tutto ciò vi sono le associazioni non riconosciute che però, come ad esempio le confraternite, hanno una finalità specifica di tipo religioso, quindi non generale ma specifica, appunto la confraternita è l'esempio classico, che hanno un regime comunque privilegiato e differenziato rispetto alle associazioni semplicemente non riconosciute. Al di fuori di tutto questo, neanche all'ultimo gradino della piramide, proprio scopate fuori dalla piramide, ci sono le associazioni filosofiche non confessionali, come quella che io rappresento qui oggi, nonostante l'articolo 17 del Trattato di Lisbona in Europa dica chiaramente che gli stati devono considerare pareteticamente, quindi trattare e dialogare in piena parità sia con le religioni sia con le associazioni filosofiche non confessionali, cioè che appunto con l'altra metà del cielo della libertà religiosa. È un obbligo europeo che noi in Italia abbiamo ben finto di guardare dall'altra parte. E l'annotazione appunto sulle garanzie dello Stato, ricordavo prima il muro bianco, noi siamo quelli del crocefisso, quelli che non volevano, cioè tutta una questione del perché appunto anche lì è stata fatta una falsa questione identitaria sulla questione del crocefisso, gli immigrati tornino, sono italianissima, io il crocefisso nella scuola laica che pago anch'io non ce lo voglio, ecco, anche lì a volte l'identità viene sovrapposta per mistificare quello che invece è un diritto appunto dell'individuo, viene indicato un nemico immaginario invece di indicare quello che è effettivamente il problema. Ma al di là di quello appunto mi ricordo quanto è stata grande la solidarietà appunto che ci è arrivata in quell'occasione da parte di tutte le confessioni di minoranza. Paolo Nasa, ricordavo prima, assolutamente appunto con la sua suo concetto del muro bianco, l'inclusività del muro bianco, il muro di uno Stato laico, il muro della scuola di uno Stato laico non ha il crocefisso e non ha neanche i 600, sono 642 le religioni attualmente riconosciute ufficialmente e non ha neanche i 642 simboletti, non siamo appunto in un campionato, è un muro di calcio, è un muro bianco, perché è un muro inclusivo, è un muro che abbraccia tutti e che non crea distinzioni. Questo dovrebbe essere lo Stato laico, e tanto dovrebbe essere, lo che mi sia concessa in questo una piccola battuta maliziosa, effettivamente le confessioni di minoranza che gridano al laicismo brutto e cattivo nei paesi in cui sono minoranza chiedono a gran voce, a tutti i costi, una sana laicità. Grazie. Grazie. Lei ha parlato per prima, forse ha voglia di reagire. Per me forse è un po' più complesso fare il punto della situazione, perché si intersecano varie dimensioni nella comunità islamica. Ci sono gli ultimi due osservazioni che hanno fatto a proposito della realtà di minoranza, è vero. Noi abbiamo anche un altro problema, che laddove si presenta, dove c'è una presenza islamica, si aggiunge anche spesso tutto il problema culturale. Nel senso che il nostro problema come musulmani in Italia non è il fatto che noi crediamo in un trascendente che ha delle proprietà teologiche diverse da quello degli altri, è un attimo più terra terra, cioè nel fatto che a volte si appare diversamente per tutta una serie di simbolo, di cultura, di pelle, di qualunque altra cosa. Mi è piaciuto molto poter parlare qui del concetto di verità. E vorrei tornare un attimo su questo punto, cioè si è parlato spesso del fatto che a volte chi crede pensa di avere una verità in tasca e che quindi questo può dare una difficoltà nel dialogo con l'altro. E provo a ritentare di proporre una delle soluzioni che ho detto prima, cioè il fatto che questo da un punto di vista di un certo Islam, perché appunto gli Islam sono tanti, però ciò che c'è qui, ciò che i credenti possono comprendere, è solo un riflesso. E quindi già questo è stato riconosciuto nell'islamistica, il fatto che una diversità di fedi non sia soltanto qualcosa che noi, di cui noi dobbiamo prendere atto, ma è inevitabile vista la situazione. E infatti è bello anche quando si parlava dell'albero delle religioni, no? Il fatto di cercare di guardare a quello di fianco. Per noi come minoranza è facile, perché se si riempie una moschea ne abbiamo almeno 30 di solito di alberi, di fedi diverse. E al tempo stesso però teologicamente non è semplice, perché soprattutto dal punto di vista islamico il problema di questa doppia dialettica di cui si parlava prima noi ce l'abbiamo anche linguistico. Cioè parlando in italiano verità vuol dire una cosa, parlando in arabo abbiamo visto cosa vuol dire tutt'altro, e quindi c'è chiaramente la maniera in cui ci si interfaccia in un momento di dialogo e la maniera anche in cui mi interfaccio io, che di cultura sono italiana, e la maniera completamente diversa in cui lo farebbe qualcun altro. Ora, forse il problema è appunto cercare di capire come entrambe le maniere, questo proprio da un punto di vista teologico, siano entrambe tentativi verso una verità che però è completamente trascendente. Quindi non è semplicemente una questione di dialogo, di comprensione, ma è proprio una stessa base che c'è già nel pensiero che ne sta alla base. Grazie. Grazie. Altri? Certo. Al secondo giro. Partendo dalle sollecitazioni varie che sono venute, riguardo al dialogo interreligioso, che è stato giustamente detto che è problematico se una delle due componenti cerca di prevalere sull'altra, e certamente nel campo ebraico-cristiano le cose sono molto migliorate da Giovanni XXIII in poi, dalla dichiarazione di Nostra Aetate con Paolo VI, eccetera. Però alcuni passi falsi ci sono stati negli anni passati, per cui certo questo pone dei problemi. Ne faccio tre esempi. La santificazione di Edith Stein. Ovviamente la Chiesa ha la discrezione di considerare santi chi vuole, certo non chiede il permesso agli ebrei. Però il fatto che Edith Stein, che è morta ad Auschwitz, ma che era un'ebrea convertita, ha creato qualche problema. Come dire che l'ebreo migliore è quello che si converte. È ovvio che credo, adesso io non sono poi un esperto di come si, possibilmente è morta, adesso non sono un esperto di come è regolamentata la santificazione, e immagino che gli ebrei non possano essere fatti santi, per cui non c'era alternativa, ma comunque il messaggio che è passato almeno è stato letto così in parte. Poi un altro caso a cui ho assistito, pure insomma, un caso singolo, limitato, a un convegno fu in dialogo interreligioso fra la comunità ebraica, fra i rabbini e il mondo cristiano, il Vaticano, organizzato qui a Roma, cattolico, e fu invitato il cardinale di Francia Lustiger. Adesso non tutti sanno che Lustiger pure era nato ebreo, ma poi dopo, da ragazzo, Lustiger, perché veniva da Germania, poi in Francia notoriamente come Levi Strauss in Francia è diventato Levi Strauss, per cui anche Lustiger è diventato Lustiger. E allora lì pure gli ebrei lo considerarono una sorta, insomma, di offesa, perché probabilmente da parte cristiana era stato invitato un cardinale che era nato ebreo pensando di fare una cosa gradita, ma invece non è stata gradita. Infatti i rabbini della comunità ebraica non ci andarono. Ci andai solo io, perché io sono un outsider e non ricevetti la comunicazione dalla centrale rabbinica che l'incontro era stato annullato. E così il rabbino David Rosen, che è un professionista del dialogo interreligioso, vide a me e fu contento, cioè almeno ce n'è un altro, perché sennò stava lì da solo. Allora questo è il posto giusto. Il terzo passo falso, che invece è quello più grave perché è dottrinale, la preghiera. È vero che è stato tolto la preghiera del Venerdì Santo, è stato tolto il perfidi giudei, però poi dopo è rimasta, è tornata, no? Illumina, adesso non mi ricordo esattamente la parola, ma illumina gli occhi dei non vedenti, qualcosa del genere. Allora è chiaro che gli ebrei, ma come i musulmani, come qualsiasi altri, se vengono chiamati i non vedenti, insomma, un problema c'è. Dal punto di vista ebraico non c'è questo atteggiamento, perché non c'è mai stato l'intenzione, la volontà di far diventare tutti ebrei. La cultura ebraica prevede le sette mitzvot dei figli di Noè, i sette precetti dei figli di Noè, che è l'umanità precedente l'avvento dell'ebraismo, perché Noè viene prima di Abramo, e che sono essenzialmente come i dieci comandamenti, eccetto, quindi vengono tolti i comandamenti, diciamo, rituali, tipo osservare il sabato. Questo non c'è nei sette precetti di Noè, ci sono soltanto quelli di carattere morale, e anche l'obbligo di avere un sistema giuridico, fondare i tribunali, un sistema giuridico organizzato. Per cui chi osserva i sette precetti dei figli di Noè, secondo il Talmud, ha parte nel mondo futuro, nel Aharit Hayamim, no? Alla fine del tempo, alla fine dei giorni. Concludo con, sono stato molto solleticato dalla considerazione che ha fatto Piero Stefani partendo da Pascal, mi ero segnato le parole, non mi cerchereste se non mi aveste già trovato, e mi cercate perché io vi ho trovato, e che è in linea con quanto nel secolo scorso, nel Novecento, Abraham Yeshua Heschel, famoso filosofo, che ha intitolato il suo libro Dio alla ricerca dell'uomo, dove è uno dei pochi casi in cui il titolo dice già tutto quello che sta nel libro, non c'è bisogno di leggere 500 pagine, che ha già capito tutto. E perché in effetti è così, e concludo con questa considerazione. L'ebraismo nasce come Abramo, con Abramo e le tre religioni monoteistiche sono religioni abramitiche, perché quello è il punto di partenza. E Abramo ci racconta il Midrash, che il Midrash lo legge fra le righe del testo della Torah, non se lo inventa di sana pianta, sta già là se uno sa leggere fra le righe. E Abramo si racconta che si chiedeva chi è che governa il mondo, pensava il sole, però poi dopo il sole tramonta, dice non può essere il sole, sarà la luna, perché c'è sia di giorno che di notte. Però poi, alla fine del mese, pure la luna scompare, no? Ci sono tre giorni e la luna non si vede, quindi un pezzo di luna. Saranno le stelle, Giove, Saturno, no, perché pure quelli. Insomma, alla fine arriva la conclusione che non sono gli astri celesti, ma c'è un creatore invisibile, eccetera, eccetera. E da lì parte tutto. E il Midrash dice anche che il Signore Dio dice ad Abramo: esci dalla tua astrologia, esci dalle tue credenze astrologiche. Per cui la rottura dell'ebraismo con le concessioni religiose dell'epoca e della regione in cui Abramo viveva, Mesopotamia, erano di rottura con la credenza nel potere degli astri. Adesso non voglio entrare nella discussione astrologica che è stata affrontata prima, ma comunque questo è il discorso. Comunque l'astronomica, Stefano. No, due punti molto brevi. Uno come discussione rispetto a quello che avevo sentito da Rabbino Di Segni prima nella sua introduzione precedente, quando citava il El Shammai, ma al di là, diciamo, del mondo midrashico, perché mi sembra molto importante quel passaggio in cui si diceva perché la regola, la halakha, la regola è secondo la scuola di Hillel, perché era mite e insieme alla sua trasmetteva anche l'opinione dell'altro. Ecco, questo mi sembra un punto bobbiano, diciamo, di elogio della mitezza, ecco, molto importante, perché cioè questa è la ragione per cui la decisione era dalla sua parte. E nel senso che riconosce la verità del dialogo, del confronto, dialogo-confronto. Perché senza l'altro io non sarei giunto a quella decisione. Non è che la trasmetto semplicemente come atto parlamentare stipulato, ma lo riconosco come elemento fondamentale della decisione che assumo. Allora, questo senso di mitezza è una delle caratteristiche che potrebbe appunto avere anche una valenza di tipo civile. Come motivazione metodologica, sì. Cioè riconoscere appunto tutte quelle cose che si sono dette, queste possono essere ricondotte a questo atteggiamento di mitezza che è il contrario appunto della violenza indicata da Luigi prima. Ora, è chiaro che la storia ti dà ragione, però la storia dà ragione è torta a tutti, cioè è disperante, va bene, la storia è disperante. Ora, non possiamo però chiedere a delle comunità religiose, uso sempre il termine così approssimativamente, di snaturarsi, ma bisognerebbe cercare, per diventare altro, bisogna cercare dentro le singole tradizioni qualcosa che non sia identitario. Questa parola identità è una parola moderna che è sciagurata, tant'è vero che appunto la fede casomai è proprio abbandonare la tua identità, non trovarne un'altra, ma trovare lì dentro delle dimensioni diverse. Allora, tu hai citato, hai fatto questo esempio filologico, ma che va al di là della filologia, e concludo, è una cosa veloce, tu hai citato la chiusa del Vangelo di Matteo: andate e fate discepoli tutte le nazioni. Così, in realtà, tutte le genti, ta esne, perché è greco, importante, perché poi quando c'è il verbo battezzare, c'è come riferimento, complemento autus, e autus non si mette insieme a ta esne, cioè se lo vedi così, come traduceva tra l'altro la Vulgata: andate a predicate tutte le genti battezzandoli, cioè voi annunciate a tutti, però battezzate soltanto coloro che accettano. E quindi c'è quest'idea non impositiva, che poi dopo nella storia sia successo, ma questo è il testo, è così. Ecco perché allora bisogna, diciamo, trovare come indicazione, e con questo mini esempio, all'interno dei patrimoni, delle giustificazioni un atteggiamento diverso. Se noi invece vogliamo forzare verso forme di allora abbiamo l'effetto contrario. Abbiamo l'effetto contrario. Grazie. Involontariamente, ma mi colloco già verso, mi sembra, la fine, di, spero quasi, di no, quasi, sì. Quasi. Facciamo sì. Non ha senso una conclusione. Ma non è una conclusione, un intervento come gli altri. Comunque, questo intervento sì, è giusto una reazione al dibattito legato ad una specie, come si dice, coming out per quanto riguarda le mie preferenze personali. Però attenzione, cioè la prima di queste preferenze è la città di Berlino, dove ho lavorato, dove torno molto volentieri, dove praticamente sin quasi dall'infanzia sono stato portato dai miei genitori ancora a Berlino Est. E vorrei ricordare una figura che è nota, è conosciuta, ma non spesso e non sempre, oserei dire, vista nella luce giusta. Federico II di Prussia, che naturalmente è uno dei più grandi capi militari nell'Europa del Settecento, c'è la storiografia discute addirittura quante guerre abbia condotto di persona, ed è conosciuto per questo. Io come polacco avrei anche qualcosa da obiettare per quanto riguarda la spartizione della Polonia, che, come dire, Federico anche lì ci ha messo un po' le mani, anche se non è lui diretto colpevole, ma i polacchi stessi. Però la città di Berlino, il regno di Prussia, grazie ad un re molto particolare, burbero, antipatico, che formalmente apparteneva alla confessione luterana, non poteva fare, però volentieri si confessava agnostico nei confronti dei suoi pochi intimi, probabilmente anche omosessuale, e allora, come dire, minoranze non proprio amate generalmente, ma la legislazione della Prussia di Federico II è stata la prima e la più avanzata per quanto riguarda i diritti di coloro che non erano luterani. Persino Federico II invitava i papisti, così si diceva all'epoca, mi scuso subito per questo termine, i papisti, ma di più anche i turchi. Proprio diceva, se i turchi vogliono venire a vivere qui, a lavorare per il bene comune, di che cosa? Sono arrivati poi certamente e hanno trovato il terreno pronto. Quindi io penso che se parliamo di tanti paesi, di tante realtà europee, è possibile, perché se queste cose già qui in Europa, non negli Stati Uniti d'America, e questo ancora prima anche della grande rivoluzione francese, che ci ha cambiati inevitabilmente, si poteva fare, credo che si possa fare senza troppe difficoltà. E qui la mia seconda proposta, che ovviamente della legge quadro sulla libertà religiosa si sono dette tante cose, ma io credo che abbiamo tutti, la conferenza episcopale è inclusa in questo mio invito, abbiamo tutti bisogno anche di un giorno simbolico, che lo possiamo trovare insieme, non propongo nessuna data, ma come c'è la giornata della memoria, e credo che sia stata una decisione del Parlamento italiano molto saggia, molto importante, io credo che abbiamo in Italia anche bisogno di una giornata dedicata prima di tutto alla libertà di coscienza e di conseguenza ovviamente la libertà religiosa, ma deve essere una giornata di mobilitazione, una giornata di sensibilizzazione anche nelle scuole di tutti i gradi, ripeto, qualcosa che io sto sognando oltre alla legge quadro, magari anche una decisione del Parlamento, ma magari una legge di iniziativa popolare, perché no? Proprio una giornata simbolica per la libertà di coscienza. E la terza, scusate, è proprio una battuta, sempre a livello molto personale, mia moglie e io veramente amiamo Vasco Rossi, nostra figlia che ha 7 anni sta canticchiando una delle ultime sue canzoni, proprio intitolata La Verità, non so se è un bene o un male, ma con questa domanda ringrazio per la possibilità di partecipare a questo incontro. Due parole, scusate, perché qui la... Anche guarda. No, ma una cosa molto, molto rapida. Chi vi parla è un, appunto, chi mi conosce sa che sono un laico radicale che però ha lavorato a lungo anche su tematiche che hanno a che fare con la religione, la secolarizzazione, la questione del tempo, eccetera. Ma, e quindi noi quando abbiamo organizzato questi eventi in fondazione, pur avendo un'impostazione laica radicale, non abbiamo mai ritenuto che le religioni potessero essere ridotte a quella battuta che fece Niels Bohr, il famoso fisico, quando il suo amico Max Born, nome molto simile, gli chiede: ma com'è che tu tieni sullo studio un ferro di cavallo, eccetera? Pare che funzioni anche per chi non ci crede. Quindi è una maniera molto utilitaria di intendere l'appartenenza alla fede religiosa. Non è in questo senso che noi abbiamo convocato alcuni rappresentanti autorevoli delle religioni in questa, in questo contesto. E il momento empirico è un fatto empirico e storico. E io, da laico radicale, non posso non riconoscerlo, se non le fedi sono un fatto reale, ci sono le fedi, ci sono, muovono la storia, muovono movimenti storici, li possiamo valutare come si vuole, si può dire che sono anche un disastro, benissimo, oppio dei popoli, come vogliamo, ma proviamo a schiacciarle, risorgono, si rigenerano. Perché probabilmente quel modo di schiacciarle è una metafisica insopportabile, perché non è mai attraversata, lo diceva Gianni prima anche molto bene, non è mai attraversata dal dubbio, dall'interrogazione. Il punto di convergenza tra un atteggiamento laico radicale e di fede radicale è proprio il dubbio. L'interrogazione, interrogarsi. E c'è una bellissima, un bellissimo passo della Mishnah, appunto ebraica, che dice: chiunque si ponga queste quattro domande, bene che non sia mai venuto al mondo, ciò che è sopra, ciò che è sotto, ciò che è prima, ciò che è dopo. Mistero dell'alto e del basso e del tempo. Certo, stasera abbiamo visto esponenti di tre religioni di salvezza, di redenzione. E allora lì, naturalmente, quello che avete detto è molto importante, ci sono problemi di traduzione anche molto importanti, ma la differenza, io ricordo tanti anni fa, prima che morisse il mio carissimo amico filosofo analitico Robert Nozick, avevamo deciso durante una cena di fare insieme un libro sulla differenza tra logos, verbum e dabar, che sono questi tre termini. Edmond Jabès, che io ho avuto la grande fortuna di conoscere, grande, grande poeta e anche teologo a suo modo ebraico, mi diceva: guarda che il termine dabar significa la parola azione, non è il logos, e neanche il verbo, è la parola azione, l'atto, cioè le religioni di redenzione sono dinamiche, non sono visioni del mondo, con buona pace di Rawls e degli altri, visioni. Certo, il problema vero poi, quello che avete posto, è campo di tensione tra verità e bene, tra verità e ciò che è giusto e ciò che è retto, corretto, ciò che è diritto, tutto quello che volete voi, ma comunque sia, campo di tensione tra verità e bene, verità a volte irraggiungibile, eccetera, però il problema fondamentale è che le religioni di redenzione sono tutte segnate dalla rottura che il termine ebraico dabar determina, anche l'Islam, a maggior ragione l'Islam, che regione dinamica per eccellenza, movimento per eccellenza, no? Proiezione verso il futuro per eccellenza, no? Però è in qualche modo è tabar, è una forma di tabar, c'è cioè una parolazione, non la parola che contempla. Noi laici radicali, io non mi professo ateista per la semplice ragione che sono antimetafisico e di conseguenza quell'ismo mi sta molto stretto, non mette in conto il dubbio, l'interrogazione, appunto, no? Ecco, è il problema fondamentale che mi porrei all'interno di questa visione che un po' stiamo cercando un po' di mettere in campo. Il problema fondamentale riguarda sostanzialmente una questione che la è il modo di vedere noi stessi, laici radicali, aconfessionali radicali, questo si può dire, se volete anche ateologici, no? Per alcuni aspetti, anche se è difficilissimo concepire la politica moderna senza la teologia, è difficilissimo, anche se io cerco di costruire una visione della politica ateologica il più possibile, ma è difficile, come dire, uscire fuori da tutto questo, no? E noi, uso un po' una parafrasi in qualche modo, non leggiamo i tre libri delle tre religioni monoteistiche, siamo letti da loro. Il nostro modo di comportarci, di agire, di pensare è formato da questi testi, volenti o nolenti. Nel corso dei secoli, dei millenni, siamo stati modellati da questo linguaggio. Il linguaggio ci ha modellato. Poi è del tutto evidente che queste religioni, tantum religio potuit suadere malorum, diceva già Lucrezio, chiaro che le religioni hanno commesso nefandezze, ma la prima parola della cultura occidentale qual è? L'inizio dell'Odissea, l'ira, meni in sea, eccetera, eccetera. L'ira, la parola con cui inizia la letteratura occidentale è una parola violenta, dura, l'ira. E quindi è del tutto evidente che certo che l'ebraismo è carico di ira, ma perché il Nuovo Testamento non ha anche la violenza dentro? Ma certo che ce l'ha. Gesù di Nazareth dice: io sono venuto a portare qui la guerra, non la pace. Cioè, nel senso che c'è un elemento anche di... il dialogo tra queste religioni, è stato detto il dialogo, come usiamo il termine, se il dialogo è come lo intendiamo nell'età moderna, è chiaro che non può essere un dialogo, ma è un incontro ad onta del dialogo, è stato detto, no? In cui nulla viene edulcorato delle differenze. Se lo intendiamo come il dialogos greco, sì, se uno legge i dialoghi platonici, in sottofondo avverte, come si può dire, un clangore di lame, dentro questo delle posizioni radicalmente opposte, un clangore di lame, e anche lì Gianni diceva, ma come viene fuori sto spazio pubblico? È cacofonico, caotico, conflittuale, io dico viva Dio se è conflittuale, perché io credo che i disastri sono stati combinati da accordi negoziati laici, che in qualche modo non si intendevano quando usavano lo stesso termine. Anche le stesse dichiarazioni dei diritti, vi ricordate? Andate a scartabellarvi gli atti delle discussioni preliminari per la dichiarazione del 1948 dei diritti universali delle Nazioni Unite. Le obiezioni che venivano dai rappresentanti ebraici, il rappresentante cinese, il rappresentante arabo, che intendete voi per libertà? Che intendete voi per dignità? Come intendere questi benedetti termini? Problema di traduzione fondamentale. Se no non, cioè, e lo dico, ripeto, da uno che è assolutamente, quindi ho ascoltato con trasporto enorme, ho pensato al mio amato Ibn Arabi quando ascoltavo il contributo di Francesca al Dacre, no? Al Dacre, no? Di Francesca al Dacre, il rapporto tra Vojud e Mavjud in Ibn Arabi che una sorta di prefigurazione di quella che Heidegger riteneva di avere scoperto, che è la differenza ontologica, l'ente e l'essere, no? Ente e l'essere, cioè la... Ho amato moltissimo Disegni quando citava Maimonide, il talmudismo di Maimonide, talmudismo molto, molto prepotente da un certo punto di vista. Io molto amo Moshe Ben Maimon, amo molto Morena Bukim, meglio Dalatat Hairim, come suona il titolo originale in arabo che lui scrive nel testo che scrive in arabo. Ma poi tante cose, i problemi di traduzione, la differenza che voi avete posto tra, appunto, da Gajewski anche agli altri, tra fedi e religioni, e quindi soprattutto il problema delle persone che vengono coinvolte, della relazione. E Paolo è un punto interrogativo molto serio, secondo me, Paolo, perché lei citava prima Corinzi 3, eccetera, questo è la relazione, più che relativizzazione della fede, la relazione come un momento costitutivo della fede. Poi io non amo molto Paolo, anche se quella frase stupenda, quella frase in cui lui dice sempre nella prima ai Corinzi: vediamo come in uno specchio per enigmata, in modo confuso per enigmata. Questo è questa idea che la fede vuol dire rompere lo specchio. Questo è bellissimo. Saulo di Tarso, ebreo, che parla però anche greco, che apprende anche il latino male, ma lo apprende. Personaggio curioso, un personaggio molto, molto, una sorta di ermete, come diceva Gramsci, una citazione un po' desueta: non si può parlare di cristianesimo, ma di cristianesimo paolinismo, perché senza Paolo il cristianesimo non ci sarebbe mai stato, senza Paolo. E quindi, insomma, sono tutte quante cose che voi avete detto, quindi anche la Intertaglia, anche Celeste Intertaglia ha posto problemi molto belli di traduzione, ma io sull'intervento di Adele Orioli ho già detto il pensiero mio: assoluta comunità di fede con lei, ma non di parole, perché... E qui io sono con Piero Stefani, io appunto citerei un altro aspetto di Pascal: se io dovessi credere in un Dio, non crederei nel Dio dei filosofi, ma nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. E dovessi credere in un Dio, mi sentirei più vicino a quel Dio, mi commuove quel Dio molto più che il Dio dei filosofi, che non mi commuove affatto. Ci ho detto, io sono molto legato da laico radicale a una convinzione che è presente nell'ebraismo e che il vecchio amico Mino Babut una volta tirò fuori in un dibattito che facemmo. Per un filosofo come Heidegger si può dire ormai solo un Dio ci può salvare, ma per noi ebrei soltanto noi siamo in grado di salvare Dio. possiamo considerare conclusa la seconda tappa di questa arrampicata. Ringrazio veramente tutti dei loro contributi e della passione che hanno messo. Grazie. E Dio ha bisogno del mondo.